Guardi, che adesso io glielo dico, non lo dico in giro. Sgarbi una volta, durante una diretta televisiva, ha fatto una scorreggia spaventosa, hanno fermato subito la trasmissione, perché ormai appena entra Sgarbi fermano la trasmissione e non la fanno più. È una cosa, guarda. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Colpo di stato, ma che colpo se lo stato qui non c'è. E poi c'è stata tutta la vicenda che si è conclusa con questa sentenza sui diritti, che poi subito è stata utilizzata per cacciarmi dal Senato e per rendermi incandidabile per 6 anni, e questo è un altro colpo di Stato, perché a una parte importante dell'elettorato, ai moderati, ha tolto il leader e l'unico che riusciva a tenere insieme i moderati. Presidente, io sono un cittadino comune, quindi se io frodo il fisco mi processano e mi becco la sentenza e me la becco, insomma, e lei è un cittadino come me, davanti al giudice. Senti, io sono il primo contribuente italiano anche, per inciso, no? Lo so, quindi, però. Questa sentenza è non solo mostruosa, è anche ridicola, e lei vedrà come fra non molto tutto questo verrà a galla. Chi fa guerra blaterando nei caffè. Caro Parenzo, forse toglieranno, forse non accadrà, però oggi si parla anche di questa possibilità. Toglieranno i servizi sociali a Berlusconi per mandarlo ai domiciliari. I giudici stanno valutando. Secondo me, se gli danno i domiciliari, gli fanno un favore grosso come una casa. Cioè, si parlerà, già si parla solo di Berlusconi, perché ormai domina la campagna elettorale. In più, se va ai domiciliari, e che succede? Cioè, vince col, per me piglia il 40%. Beh, se vai domiciliari. Forse punta a questo ormai. Ma non lo so se punta a questo, perché i domiciliari sono sempre i domiciliari. Ma nella sentenza è discutibile, per quanto possiamo dire, che è assurdo che uno sì, possa. Sì, ma i domiciliari sono sempre i domiciliari, devi stare a casa, eccetera, non ti puoi muovere, eccetera. Non è che uno auspica di andare ai domiciliari. Comunque, i giudici stanno valutando. Per queste frasi che abbiamo sentito stamattina a Mediaset e ieri sera da Formigli. Beh, non vorrei che poi colpissero anche me. Si è accettata la provenienza del scempio. Tu che stringi poi di aver paura. L'ignoranza è nelle cose che non sai. E cerca insomma tu di farti. Oh, Napolitano aveva il dovere di darmi la grazia. Legati e letti mai. Colpo di stato. Avevo chiesto al capo dello Stato la grazia senza presentargli una formale richiesta, ma gli avevo detto: lei ha il dovere morale di usare la grazia che le è assegnata come un potere monarchico dalla Costituzione. Ora, tu sai che io sono. Mi piace moltissimo Marcello Dell'Utri, lo dico qui apertamente, no? Cioè, non mi sta antipatico, uno che mi sta al di là delle sentenze, istintivamente mi sta simpatico. Questo è chiaro. Quello anche a me mi sta simpatico. Anche a te. Allora, dico solo questo. L'ho detto. No, allora, no, io. Però, non è che se uno è una persona apparentemente per bene, poi sì, non possa commettere questo. Dei crimini. Non insomma, basta no. questo. Non poi, basta. Soprattutto, se uno è un bibliofilo e anche cattolico, come ha detto Berlusconi, cioè non è che questo, come dire, elimina la possibilità che uno possa commettere dei crimini. Ma sai, è la stessa cosa che si diceva dei mafiosi, no? Cioè? Sempre in chiesa vado, dottore, sempre in chiesa. Beh, ho capito, però, se, però bruciavi. Però, se, però mettevi se i bambini nell'acido. Nella. No, ma sempre in chiesa. Beh, ho capito, io. Ma non c'entra nulla. Fedele in Dio, Cristo, Gesù Cristo, sempre in chiesa vado. Ho capito, però a Palermo ogni giorno in chiesa andavo. Ho capito, però con 10 anni ci andavo in chiesa. No. No e però, allora sei criminale, sei tu. No, sei ma però. Sì, ho capito, però lei criminale sei tu. Ho capito, lei mette i bambini nell'acido però. Nell'acido perché è buono l'acido. Dell'Utri. Ho capito Dell'Utri. Marcello Dell'Utri è in Libano. Dice che ce l'ha mandato lei. No, non dice. Ho negato assolutamente, è falsa questa cosa. Non sapevo neppure che dove fosse, e quindi è stata una sorpresa sapere. La cosa che dolora, vuole rivolgere un pensiero, è un suo grande amico che non l'ha mai tradita. Scusi, non solo non l'ha mai tradita, è una persona per benissimo, ha una bellissima famiglia, è un cattolico fervente e praticante, non conosco cose negative che abbia fatto Marcello Dell'Utri. È un uomo molto colto, è probabilmente il più colto bibliofilo italiano. Vabbè, stupendo, meraviglioso. Il più colto. Ma che è cala? Ma questo è Dell'Utri vero? È il fratello. No, è Dell'Utri che dice a Berlusconi: cala. Lo so, infatti. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Grillo, se vinciamo mandiamo Napolitano a Cesano Boscone. Questa però non è male, come cosa. Se dobbiamo vincere le elezioni andremo da Napolitano e lo costringeremo a dimettersi e andare a Cesano Boscone insieme a quell'altro, così si tirano un po' sul morale invece di invitarlo lì. Oh, Mussolini contro Zanonato, farò la zanzarona che ti punge con la malaria. L'aria che tira. Mussolini. Noi non ci entriamo, Sì. No, scusa, dell'euro, vedi, perché no, interrompe sempre. Ma interrompe sempre. Dell'euro. Mi lasci dire una cosa. Alessandro Mussolini, le chiedo una cortesia. Mussolini, le chiedo una cortesia. Stiamo parlando di Zanonato, facciamo concludere Zanonato. Lei dovrebbe essere più meno fastidiosa. È una zanzara continua. E io sono una zanzarona. Dai, avanti. Che allora, si posa e allora, che punge e che ti fa venire la malaria. No. Allora. Ma che colpo se non stato qui non c'è. Pina Picerno, la tua amica Pina Picerno dice che con 80 euro al mese, quelli che Renzi darà dal 25 maggio in busta paga a chi guadagna, esatto, per due settimane. Ora io dico, cara Picerno, certo, con 80 euro si possono comprare anche 80 pacchi di pasta e ti possono durare non so per quanto, ma 80 euro al mese, voi dovete chiamarci questa sera e ci dite, ma secondo voi con 80 euro al mese due settimane si fanno di spesa? Due settimane di base si possono comprare, ah, dai, ma i generi di base che c'è? Lei ha detto la spesa per due settimane, ha detto. Ma sì, adesso voglio dire, beh, questa ha è una detto, polemica. No, ma scusa, ma con 80 tutta, euro al non mese non è per difendere la Picerno che conosco. No, è come se uno può campare con 160 euro al mese, allora. Siccome ma 80 no, euro ma non ha detto che sono uno stipendio. Ha con 80 euro puoi fare la spesa per due settimane. E se vai falso. Se vai nei posti giusti. Ma chi, se sei single forse. Ma si sono i grilli. Questa è la polemica grillina. No, ma che c'è? L'ha detto lei, che c'entra i grilli? Sono poi, l'ha ma lo sai com'è andata, sì, l'hanno ma l'ha poi detto costruita lei. Nella rete. Ma mi fai sentire la Picerno prima, sentiamo, sì, la Picerno, ma lascia perdere. Credo da Santoro, adesso non mi ricordo, no. Da Ballarò, adesso non Picerno, mi ricordo. Ma quale Ballarò, Picerno? Da Santoro. Che 80 euro al mese significa poter andare a mangiare due volte fuori, significa poter fare la spesa per due settimane, significa insomma assicurare un po' d'ossigeno alle famiglie italiane. Allora, ragazzi, adesso la spesa per due settimane con 80 euro non la fai, chiaro? Non la fai. Ma almeno... so aggrapparsi a una frase. No, ma sto dicendo frase... no, dice quanto significa costa aggrapparsi la... ma ci aggrappiamo tutti i giorni a una no, frase. No, ma aggrapparsi adesso, perché ma la Picerno non ci possiamo dicendo... aggrappare. Ma certo, ma nel contesto che hai fatto giustamente risentire, io infatti non l'avevo sentita, l'avevo letta semplicemente oggi nei tweet e no, nelle polemiche. Allora, hai fatto bene a fare la risentita. Ha detto una cazzata. Non l'avevo sentita in audio e l'avevo letta. Ha detto no, una cazzata. No, ma falla risentire. Falla risentire perché è un argomento. Falla risentire. Oh, bravo. Risentiamo. Due settimane di spesa. Non si fanno. Non Falli si fa la spesa. Falla risentire il contesto. Fallo risentire. Ma che c'entra il contesto? La frase è chiara. Il ragionamento che fa. Falla risentire. Io divento pazzo io. No, non la faccio risentire. Allora. Ha trovato infine le comodità. È con noi Gianluca Buonanno. Eccoci qui. Ciao. Caro Gianluca, allora oggi sei stato punito. Punito dalla. Bravo, pagala. Saluta e baci, paga la multa e taci. Su, saluta e baci. Tira fuori 2000 euro. 12 giornate di squalifica. 12 giornate di squalifica. Bravo. Per un totale di 2600 euro circa. Bravo. Giusto? Sì, orgogliosamente, come avessi una medaglia oggi al valore. Addirittura. Sono contento, certo. E gliel'ho detto anche in faccia quando mi hanno convocato stamattina. Cioè, se tornassi indietro lo rifarei. Cioè, rifaresti la tutto. Spigola, la spigola. Certo, la spigola e dire che io non voglio i clandestini, sono contro i clandestini. E voglio che questo paese faccia una politica contro i clandestini e difenda invece la nostra gente, lo ridico adesso, domani e finché cade. Ma scusa, i 2600 euro che sono il computo dei 12 giorni di sospensione, sì, non è che li tira fuori, no, purtroppo. Ci rimette 2600 euro. No, cioè, non è che ci rimette. Sono certo, per la spigola, sì. Questa punizione è per la spigola? Sì, la spigola. E perché uno non può portare la spigola in Parlamento? Difatti, la prossima volta prendo un pesce spada, così faccio più male che bene, insomma. Io ho notato una cosa, caro Parenzo. Ma perché non si può ridere davanti a queste cose? La prossima volta io ti porto un pesce spada. Ma mi fa ridere però, perché nel Parlamento ci sono persone che magari sono in odore di mafia o sono delinquenti o hanno combinato qualcosa che non va bene, sono già stati condannati in primo o secondo grado, e che io vengo trattato come se fossi un super criminale perché, solo perché la Presidente della Camera mi vede con dei preconcetti e se può me la fa pagare. Siccome l'aveva già detto prima che voleva darmi una diciamo così, un giudizio e poi una sanzione esemplare, e stamattina l'ho vista. Scusa Gianluca, ma è vero che Gianluca, ma è vero, ho letto qua nel comunicato che è stato fatto per nella deliberazione della tua punizione, che c'è un timbro. Questo è incredibile, questa cosa qua. C'è un timbro. Sì, è ridicolo, perché io l'estate scorsa avevo fatto un intervento d'agosto contro il Presidente della Camera, perché avevo visto, quando mi aveva mandato altre sanzioni e dalle firmate, che non c'era scritto il Presidente della Camera ma la Presidente. Quindi io ho pensato, se prima c'era Gianfranco Fini, non vedo perché lei, che è donna, ha voluto fare rifare tutta la carta intestata. Questo per un vezzo, per far capire che persona è, cioè molto di immagine. Cioè ha fatto rifare, ha fatto con gli immigrati eccetera, e poi ha rifatto tutta la carta intestata. E poi ho visto oggi che c'è anche il timbro la Presidente, cioè questa persona si è fatto anche rifare i timbri alla Camera dei Deputati, che non è che cambia il bilancio della Camera dei Deputati, appunto, ma è il simbolo, il significato che questa persona... Cioè ha fatto rifare il timbro con scritto la Presidente, mi sembra, no? La Presidente, cioè sulla... Dai, Parenzo, questa è una buffonata. Io credo, devi dirla tutta, io credo che ogni Presidente che arriva, visto che c'è il nome, no? Bertinotti, Casini... No, non c'è il nome, c'è scritto la Presidente. No, c'è scritto la Presidente, Camera dei Deputati, la notizia del giorno. Va bene. Non c'è il suo nome. Scusa Gianluca, come hai trasformato, per la fortuna di noi giornalisti lo dico, ma come hai trasformato le istituzioni? Cioè ogni giorno le gazzarre, il tuo contributo sono le gazzarre, che la pagliacciata che ogni giorno proponi. Primo di aprire, no? Ma scusa Gianluca, un attimo, un'altra cosa sola, aspetta un attimo. Allora, il timbro, la Presidente eccetera, ma se dovesse diventare Presidente della Camera un omosessuale, che facciamo, un altro timbro? Appunto. Cioè? Ne facciamo uno, un altro, e non so come si vorrà definire. Il, la, non so. Poi uno, il barra la, dici, no? Il barra la Presidente. Come vuole. Capito, Lorenzo? È un vezzo. Scusa, ma come giudichi? Come... Alla fine parlano tanto sti radical chic comunisti con il portafoglio pieno, poi in realtà io ho portato la spigola per dire che la Boldrini difende i clandestini e non pensa agli italiani. Vabbè, questo che lo sappiamo. Che vanno a rovistare nella spazzatura e invece lei mangia la spigola. Questo lo sappiamo. Un attimo solo. Lei è camerieri, maggiordomi, poi viene a fare la morale agli italiani. Come scorta, va da Mandela lì al funerale, si porta il morotto con l'aereo di Stato e viene a fare la morale a noi. Scusa un attimo, ma come giudichi la Boldrini? La giudico che, a mio giudizio, è un comportamento politico da stronza. Cioè aspetta un attimo, tu stai dicendo che cosa? Che la Boldrini, spiegami bene, la Boldrini è... Ha un comportamento politico da stronza, io non faccio giudizi morali. Cioè stai dicendo che la Boldrini è una stronza? Ha un comportamento politico da stronzo, è ubriaca di potere, e quindi con me è prevenuta, e ce l'ha con me e con la Lega, altri che fanno ben di peggio di quello che faccio io, non li tocca neanche, fa finta di niente, la sinistra per lei non esiste. Siamo come lei, siamo come lei. Attento al DDT, sai? Siamo qui 18:47 con l'uomo della spigola, punito con Parenzo con l'espulsione, chiamiamola così, per 12 giorni dalla Camera. In totale sono 2.600 euro che verranno a mancare dalle tasche dell'onorevole Gianluca Buonanno, Lega Nord, che è pure candidato alle elezioni europee. E chiedo a Buonanno una cosa, allora ripetiamo questo concetto qui: la Boldrini che cos'è? Una stronza. È una stronza, perché tutti... È una stronza, nel senso che ha un comportamento politico da stronza nei suoi confronti. No, ormai, è venuta con me e con la Lega, perché noi siamo contro i clandestini, noi vogliamo difendere la nostra gente. Tu sei indegnamente... Se lei vuole difendere i clandestini, se li porti a casa sua. Tra poco saremo invasi da 600-800.000 clandestini. Questi arrivano in Italia, l'ho visto con i miei occhi. Scappano dopo due giorni, non sappiamo se sono malati. Però scusa, spiegami questa cosa. Il risultato. Spiegami questa cosa. Allora, è una stronza perché politicamente, cioè nei suoi atteggiamenti politici, nelle sue esternazioni come presidente della Camera, perché tu dici che è una stronza? perché è un comportamento politico prevenuto nei miei confronti e siccome io la penso diversamente da lei, ha un atteggiamento da stronza. Mai si è visto nella storia della Repubblica che un deputato insultasse in questo modo greve la terza. Non hai nessun rispetto di niente, né di te stesso né delle istituzioni. Hai ogni volta il tuo unico contributo è quello di rendere quel Parlamento una gazzarra, di fare una puttanata, di farti notare per raggiungere il 4%. Ormai sei diventato un personaggio. Ti manca il naso rosso del pagliaccio del circo ormai. Addirittura sei arrivato a dare della stronza alla terza carica dello Stato. Stato, siedi indegnamente in quel Parlamento, indegnamente, hai portato il peggio della feccia dentro le istituzioni. Perché dici così, Parenzo, perché, scusa. Perché le istituzioni sono cose che vanno rispettate, vanno semmai cambiate. Tu hai attaccato, tu dando della storia, è la prima volta nella storia della Repubblica che un deputato, guarda. Ho parlato della signora Boldrini. No, hai parlato della signora Boldrini che puoi criticare sul piano politico. Ha detto che ha un comportamento politico da stronza. No, ha detto che è una stronza. Ha detto che è una stronza. No, però scusa, scusami un attimo. Quando Fini, quando Bossi dava dello stronzo a Fini, quando Bossi dava dello stronzo a Tosi, esprimeva, adesso mi ricordo queste cose, esprimeva dei giudizi politici. Non è che diceva. Era una battaglia all'interno del partito. E infatti questa è una battaglia politica. Ma quale questa è una battaglia politica? Ma qui stiamo parlando della terza carica dello Stato. Che sono contro i clandestini. Se la terza carica dello Stato ha un comportamento applicato il regolamento in questa maniera, ma no, non è così, perché altri hanno fatto ben di peggio e continua imperterrita e prevenuta nei miei confronti e prevenuta contro la Lega. Questa è la verità. Ma tu ormai sei solo specializzato, in stronzate. Solo questo. Parenzo, che la prendessi te l'Ebola virus, lo sai che ha 21 giorni di incubazione. Cosa hai detto, scusa? Poi muore il 90%. Non ho capito. Dice, vorrebbe che prendessi l'Ebola virus. In più, caro Parenzo, in Spagna hanno diminuito gli sbarchi e noi ne abbiamo aumentati di 10 volte nei primi 5 mesi qua. Ma tu come li manderesti via i clandestini, anche con la forza, gente. Gianluca, come li manderesti? Devono farli partire, dobbiamo aiutarli a casa loro. Ce ne sono 6 o 7. Senti, ma la Boldrini per te a chi assomiglia come atteggiamento? A chi ti fa venire in mente? Guarda, adesso faccio una battuta che ricorda quella di Berlusconi. Cioè? Fa anche lei il capo, invece di Schulz lo fa il capo qui in Italia, perché comunque lei si fa fotografare. Si fa? Col vecchietto, eccetera, fotografare con l'immigrato, il vecchietto, va a Marzabotto a parlare, sì. ma stiamo scherzando? Vabbè, lei quello fa per il 25. Ah, fa il capo. Lei fa il capo, non sa, se lei è una democratica, Fidel Castro è l'essenza della democrazia. Parenzo? Guarda, io ormai sto aspettando. Deve andare Nord Corea, sto la soltanto aspettando la prossima stupidaggine che dirà. Sì. Ogni giorno io mi sveglio e dico: vediamo oggi quale sarà la prossima stupidaggine che dirà. Virus, Ebola, stronza la Boldrini. Ma lascia stare comunista. Tu stai. Sei il peggior rappresentante nelle istituzioni italiane. Il peggiore. Perché stai contribuendo. Questa non è la intanto. Non, ad esempio, non la penso come il presidente Napolitano, ma lo rispetto, chiaro? Napolitani, sotto l'aspetto politico, la ritengo, ripeto. Aspetta che sentiamo poco, dove sei? E lo ridico, sono sull'aereo. Allora, vedono tutti un po' strano, penso che sia matto. Beh, ti credo. Guarda, ti vedono strano perché vedono quel naso rosso da pagliaccio che tu non vedi, ma loro lo vedono il naso da pagliaccio che c'hai. Comunque, tira fuori una spigola e portala al comandante che ti prende a calci nel sedere. Tira fuori una spigola. Con uomini belli per la figlia. Vediamo se non ti prende a calci nel sedere fuori dall'aereo. Vai con la spigola dal comandante. Il comandante, sono Buonanno. Questo aereo puzza. Vediamo se non ti prende di sbatte a calci nel sedere fuori dall'aereo. Nella stiva ti mette. Che cosa infili come una supposta? Non ho capito. No, prendo un pesce spada e glielo faccio come supposta a Parenzo, così la smette. Guarda, tu sei un gatto nei pantaloni. Sei un gatto dentro i pantaloni. Senti, ma la banana, perché non ti mangi una banana della Chieng? La banana. Se vado in Europa e viene votata la Chieng, magari diventa un suo incubo. Vuoi diventare in Europa l'incubo della Chiesa? Ma ci rendiamo conto che sono passati 6 mesi, Barroso è venuto a Lampedusa e dopo 6 mesi siamo aggiustati peggio di prima, non hanno fatto niente. Ma che razza fino a ieri qua non sapevi neanche chi fosse Barroso. Senti, ma che vai a fare in Europa? Che vai a fare in Europa, Gianluca? Ma cazzo, ma niente. Cosa vado a fare? Portare le spigole. Vado ovviamente in maniera tutta metaforica, mi piacerebbe andare con un lanciafiamme a cambiare un po' il sistema europeo, perché ci siamo rotti le scatole di questo sistema europeo. Ecco il dove alla fine facciamo tutti i servi della Germania. No. Ma poi dici dire... perché l'Europa non funziona, perché guarda che gente magari incontri di nuovo la Kieng. Va bene la gente, oggi con 1000 euro fai la fame. Magari incontri la Kieng, verrà eletta magari pure lei, insieme a te, che ne sai? Io non so se verrò eletto, se lei sarà eletta e io sarò eletto diventerò magari il suo incubo. L'incubo della Kieng, l'incubo della ma Kieng. Già lo sono della Boldrini e adesso vediamo se possiamo migliorare ulteriormente. Senti una cosa, ma Parenzo, con che fai? Capo Boldrini. Parenzo, che hai fatto? Ti sei abbutolito? Che hai fatto? No, ascoltavo i ragionamenti. No, ma tutta questa parlavo prima della banana, perché non mangi per solidarietà nei confronti di Dani Alves anche tu una banana antirazzismo oppure no? Io? No, buon anno. Però bisogna vedere se poi l'ha mandata così oppure aveva bisogno di potassio per i muscoli, che ne sappiamo. Ma infatti a me non mi è sembrato non mi è sembrato un gesto così antirazzista da parte di Dani Alves, quel giocatore del Barcellona. Adesso c'è tutta questa ipocrisia. Comunque a sinistra tutta una parodia di tutta questa cosa è la banana. Poi quando c'è da aiutare la gente povera che sta male, si voltano tutti dall'altra parte. Tutti vogliono difendere i Rom, però a casa di un altro. È tutto così, gli zingari sì dobbiamo difenderli tutti, però loro stanno nelle ville, si mangiano le tartine col salmone e fanno tutto quello che dicono, però li fanno gli altri, ovviamente. E la Boldrini fa lo stesso, parla tanto, gira con l'aereo di Stato. Vabbè, ho capito, l'aereo di Stato... La scorta, mangia la spigola, poi dici clandestini. Ma adesso tu che ne... che va negli hotel a 4-5 stelle... Ma adesso tu che ne sai... Che vergogna cosa. Ma tu che ne sai che mangia la spigola poi, tra l'altro... guarda che si sa, c'è tutta una serie di maggiordomi e camerieri, sappiamo bene che cosa fa. Ah, perché tu vai in hotel a una stella invece. Senti, no, io però non faccio la morale su vuoi dire una parola a Pannella, perché so che hai polemizzato anche su sta cosa del Papa che ha chiamato Pannella. No, adesso Pannella va ai gemelli con tutto quello che ha detto e ha fatto, va ai gemelli, poi si mette a fumare il sigaro ma roba da matti. Ma perché? È tutto al contrario. Perché dici? Ma piantiamola lì. Perché ma non dovrebbe andare al gemelli? Ma scusa una cosa, ma con tutti gli scioperi che ha fatto, se fossero davvero veri tutti gli scioperi di Pannella, non sarebbe certo più qui in questa terra. Cioè sarebbe già morto con tutti. Mamma mia, ma dai, ma dimmi che adesso fa lo sciopero vero tutte le volte. Cioè, secondo te è una farsa, dici, perché sennò sarebbe già crepato. Ma è un attore nato. Questo devo dire, però. Pannella, ma dai. Senti, dovresti almeno avere rispetto per le persone che sono ricoverate all'ospedale, che alcuni medici non radicali o comunisti hanno certificato il suo stato di salute. Beh, però l'ha chiamato anche il Papa. L'ha chiamato anche il Papa, Gianluca. L'ha chiamato anche il Papa. Magari perché secondo te il Papa dopo. Chiama buon anno, secondo te? Certo. Ti immagini il Papa che ti chiama buon anno? Chiama te. Se vuol parlare con un asino, magari chiama te. Men che meno te. Sta partendo l'aereo? No, ma che ci vai? Perché mi guardano tutti. Vai a fare te, ti credo, ti guardano tutti, ma renditi per conto del perché ti guardano tutti. Hai ragione. Però ha detto prima una cosa: Pannella, con tutti gli scioperi della fame che ha fatto e della sete, dovrebbe essere già morto secondo buon anno. Ma che stupidaggine. Sì, allora poi Superman, e noi non lo sappiamo. Bisogna che potessi scappare Superman. Radio 24 è una radio che ripeto molto seria. Il programma della serata è una cosa che spesso mi disgusta. Benvenuta nel mio spazio sotto il salice. Non stare lì così, mettiti comoda. Sull'erba butto spesso il disicori. Bernini dice che Berlusconi è come Corona, come Mao, come Corona, non quello Corona l'alpinista, cioè l'alpinista, l'uomo delle montagne, diciamo, no? Lo scrittore, uomo delle montagne, ma è come Corona quello che sta in galera. Il fotografo. Yes. Ma non è un gran paragone, però. Allora, io potrei citarle 20 casi, anche molto noti, in cui persone che sono state sottoposte ai servizi sociali hanno continuato a fare il loro lavoro. Non si può inibire Berlusconi da fare il mestiere me che ha fatto qualcuno per gli capire ultimi io. Vent'anni. Me ne citi qualcuno per capire, che vuol dire? Il più mediatico, Fabrizio Corona. Ha continuato a fare il suo lavoro, stava nella sua agenzia. Non ho capito bene, Corona ha continuato a fare il suo lavoro e... Parenzo? Ma sei distratto, non ho capito. Allora, no, Corona... pensavo mandassi un altro pezzo di audio. Allora? Cioè, il paragone della Bernini non mi pare lusinghiero anche nei confronti... No, ma lascia perdere che è lusinghiero, Corona, non ho capito, ha continuato a fare il suo lavoro quando? Mica era il servizio sociale a un certo punto Corona, o sì? Ah, forse no. Sì. Sì, dice, nonostante la condanna, a un certo punto continuava a fare il fotografo, il suo mestiere, tranquillamente. Questo credo fosse il senso, ma non mi pare l'esempio più calzante. Vabbè, da fare. Sai, beh, Corona e Berlusconi non è che erano uno è il leader di un partito, l'altro è uno che faceva foto e ricatti, insomma non mi pare una roba così. Foto e ricatti. Beh, questa è l'accusa. TG3, titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Berlusconi attacca il capo dello Stato e i magistrati che con la sentenza Mediaset hanno fatto un colpo di Stato. Vietti su Napolitano scherza col fuoco. Le parole di Berlusconi sui giudici e sui servizi sociali sono all'esame del Tribunale di Sorveglianza e ora rischia gli arresti domiciliari. Renzi ai senatori PD, riforme subito o vado a casa. La minoranza è intesa vicina, ma restano nodi. Il testo base su Palazzo Madama slitta di una settimana. Beppe Grillo all'Assemblea di Montepaschi accusa, qui c'è la mafia, non in Sicilia. Se vinciamo alle europee, chiederemo il voto anticipato. Si sblocca la trattativa all'Italia, è arrivata la lettera con la proposta degli arabi di Etihad. L'azienda punta a tagli per 400 milioni. Continua l'insurrezione dei separatisti filorussi nell'Ucraina orientale. Occupata anche la città di Luhansk, l'Europa vara nuove sanzioni. E sul caso di Riccardo Magherini, morto a Firenze durante un arresto, i familiari presentano una denuncia. Al TG3 il padre dice lo hanno picchiato mentre era a terra. Da non credere, Parenzo. Allora, ti faccio sentire adesso la musica di sottofondo dello spot elettorale di Cecchi Paone, del nostro amico Cecchi Paone, candidato alle elezioni europee per Forza Italia in Meridione. Non si sente niente, cioè le frasi non ci sono, le ho estrapolate, cioè le ho copiate e te le dirò io, come se fosse uno spot elettorale. È uno spot che c'è su internet, andate a vedere Cecchi Paone, spot elettorale Forza Italia. Non ci si può credere quello che dice. Per amore di Papa Francesco, per amore di Marco Pannella, per amore di Steve Jobs, per amore di Sofia Loren, per amore di Silvio Berlusconi, per amore di mia moglie, per amore, scrivi Alessandro Cecchi Paone, elezioni europee 25 maggio. Conto. Direi definitivo. Per amore definitivo. Di mia moglie. Cioè, ma non eri frocio a Cecchi Paone. Ma non eri frocio, amico mio. Hai messo Papa Francesco, sì. Marco Pannella, sì. Steve Jobs, sì. Sofia Loren, che dicono sia un'icona gay, però non è che la gente se lo ricorda. Silvio Berlusconi, perché ovviamente si candida con Forza Italia. Per amore di Berlusconi, per amore di mia moglie. Tra l'altro pure con un bambino in mano, credo, la moglie. No, con un gatto, con un gatto. Con un gatto, gatto niente. No, è vero questa volta. Scusi, non è che un non è gatto, confondere un gatto con un bambino, amico mio, però. No, non mi ricordo, aveva qualcosa in braccio e non mi ricordavo se fosse il figlio. Ma comunque, per amore di mia moglie, ma se eri di frocio, metti per amore. Dovevi mettere un nero, un negro nudo. Sì, dovevi ma mettere. Anche, beh, questo per magari amore, è sempre un po' sì, eccessivo. Sì, però... dovevi mettere un negro nudo. Un negro nudo. Per amore. Fammi stare zitto, che, ah. Che orrore. No, ma non è che orrore, l'ha fatto Cecchi Paone sto spot, Mughini, non l'ho fatto io, Allora, per caporale del Fatto Quotidiano, Berlusconi non dovrebbe fare campagna elettorale, vabbè. C'è sempre uno meno uguale agli altri. Allora, tu dici che Berlusconi, il fatto che continua a fare non campagna elettorale da condannato, la non la dovrebbe fare. Ok. Io voglio risentire la cosa su Dell'Utri perché mi ha colpito. Allora, io spero che Dell'Utri alla fine faccia così alla giustizia italiana. Tiè, e resti in Libano. Questo che faccia il latitante, questo è il suggerimento che tu. Sì, no, il mio auspicio è che resti in però, Libano. Scusami, faccia il latitante. Faccia il latitante? Sì. No, tecnicamente il tuo consiglio è quello che faccia il consiglio è quello di rimanere a fare allora, il latitante, altrimenti uno... marcisce in galera per 7 anni. Sì, ma voglio dire, uno che ha il passato e il presente come il suo, sì. No? che quindi ha una storia anche da difendere, anche soltanto per l'orgoglio. Uno che metteva in scena Socrate che beve la cicuta quando lui faceva il suo teatro di verdura in via Senato a Milano. Sì. Lui metteva in scena Socrate che beve la cicuta. Beh, allora dovrebbe andare a essere coerente con quello che ha sempre detto e andare, in galera per riscattare se stesso. Questo io dico. Allora. Consiglio che fai è noi vogliamo bene a Dell'Utri entrambi questa volta entrambi. Va bene, ma è un bene, devi specificare però, che tipo aspetta, di bene. Però Berlusconi accusato, Berlusconi è condannato per no? Per concorso esterno, quindi insomma, adesso sì, bene. Ci sarebbe da discutere sul concorso esterno in associazione però, mafiosa. Però si può anche discutere sul semaforo rosso. Volevo dire che vale anche per Berlusconi, no, che non critica, è la stessa cosa, che dai. Parla del gol. Cioè, se c'è una legge che prevede che col semaforo rosso non si passa, come sei banale. Ma purtroppo guarda, sarà banale, ma la convivenza civile fondata su sei questo. Sei di una banalità sconcertante. Ma sarà anche banale, ma ci sono nella la convivenza civile basata su delle allora, regole comuni, no? Dell'Utri Berlusconi dice che Dell'Utri, essendo persona per benissimo, bibliofilo e anche fervente cattolico, ma che c'entra? Sicuramente innocente. Questo lo dice Berlusconi. Ma che c'entra? Anche secondo me che c'entra. Ma anche Rina andava in chiesa. Marcello Dell'Utri è in Libano, dice che ce l'ha mandato lei. No, non dice. Ho negato assolutamente, è falsa questa cosa. Non sapevo neppure che dove fosse. E quindi è stata una sorpresa sapere. La cosa lo addolora, vuole rivolgere un pensiero. È un suo grande amico che non l'ha mai tradita. Scusi, non solo non l'ha mai tradita, è una persona per benissimo. Ha una bellissima famiglia, è un cattolico fervente e praticante. Non conosco cose negative che abbia fatto Marcello Dell'Utri. È un uomo molto colto, è probabilmente il più colto bibliofilo italiano. Dolce amaro. Cala, cala. Prima del morso ti puoi anche confessare e dirci quello. Ah, c'è chi può, ma non eri procio, ma ci dovevi mettere un negro nudo nel tuo spot elettorale. Nudo, un bel ragazzo, uno per amore di lui, sì, per amore di questo ragazzo, doveva mettere questo, sì, il suo fidanzato. Ma ha messo nudo nello spot elettorale una cosa ipocrita, Pannella, Papa questo Bergoglio, la moglie, eccetera, eccetera. Doveva mettere un gay. Per amore di questo ragazzo. Sì, ma non nudo però. Ma sì, anche nudo, chi se ne frega. Così ma che cazzo di argomento è? Questo è Fulvio, questo è Fulvio, signor Fulvio, signor Fulvio. Va bene, Claudio da Livorno. Claudio da Livorno, dopo abbiamo il Fulvio Remix. No, non è conduttore. Dopo abbiamo il Fulvio Remix. Claudio. Pronto? Sì. Sì, no, volevo intervenire prima sull'argomento degli 80 euro. Volevo dire che gli 80 euro non so veramente niente in busta paga. Vabbè, lei quanto guadagna? 1500... Lei quanto guadagna? 1.600. 1.600 dove? Che fa di mestiere? Nel settore pubblico. Nel settore pubblico 1.600, dunque lei praticamente però non rientra, questa è la realtà. Con moglie non ci rientro nemmeno. E comunque con moglie e due figli 80 euro non sarebbero niente. Ma lei un porro del culo perché non rientra tra quelli che prendono gli 80 euro, no? No, magari ci rientrasse, è andato tutto fatto. Allora scusi un attimo, ma lei è contraddittorio. Dice non fa niente, poi dice magari ci rientro. No, non sono niente. Siccome l'intervento prima era di un politico che ha detto che 80 euro sono... Sì, si fa fare la spesa per due settimane. Lei la fa la spesa per due settimane, Claudio? No, non ce la fa la spesa per due settimane. Cioè, lei... Nemmeno più al Lidl se fa la spesa per due settimane. Questa era la Picerno che ha detto del Partito Democratico. Ha detto che con 80 euro si fa la spesa per due settimane. Lei che guadagna 1.600, peraltro non rientra neppure nella categoria, diciamo, come dire, beneficata dagli 80 euro di Renzi, dice che la spesa, forse lei 80 euro una spesa ci fa un giorno per una famiglia e due figli, o sbaglio? Ma un giorno, insomma, però fa poco. 80 si fa euro. Poco. Enzo D'Asti, Enzo. Buonasera, Cruciani. Dimmi. Buonasera, Parenzi. Io volevo solo dire, quando si sentono queste stronzate qua di sti politici, poi si lamentano che c'è odio verso la politica, ma mi fanno girare i coglioni in una maniera mostruosa, scusa per la parola, perché è una presa per il culo nei confronti degli italiani. Io non sono né di sinistra né di destra, però mi hanno insegnato che oggi la forza della sinistra è la povertà della gente. Io faccio il camionista. Sì. Un'altra cosa che volevo dire, scusami. No, ma io non ho capito, è riferito a che cosa? Alla dichiarazione che ha fatto la Picerno, sì, sugli 80 euro due settimane di spesa. È una cazzata, guarda, io faccio l'autista. Quanto guadagni tu? Quanto guadagni? Io prendo 2.100 euro, ma sono uno zingaro. Però che vuol dire sono uno zingaro? Scusi, sono uno zingaro, non sono mai a casa. Però ti dico e con 80 cosa, euro quanto ci fai? Ma che cazzo ci faccio? Tra sigarette? Io stasera ho cenato in pizzeria presto, adesso sono qua davanti a un grande magazzino. Cioè, non ci fai la spesa per due settimane, come dice la signora Picerno? Io 80 euro me le brucio in tre giorni, ma devo fare attenzione. Vabbè, dipende, perché se te le bruci in vizi, se te fai di cocaina, allora sì. No, la cocaina se la fanno certi politici e certi stupidi. No, sto scherzando. No, lo so, ma sai cos'è, Giuseppe? Che veramente, a me piace un sacco come persona. Quello che mi fa veramente incazzare sono ste prese in giro, perché gli italiani... Noi dovremmo essere la nazione. Ma come cazzo si fa a dire che con 80 euro fai due settimane di spesa? Ma cosa vuol dire? Ma dai, falla riascoltare tutta. Scusami, ma come si fa? È una polemica pretestuosa. Un attimo, torniamo. Non è pretestuosa, sono le frasi che ha detto la Picerno. Se ne assuma la responsabilità. Spettacolare, spettacolare. Le zanzare di casa. Quando io sento l'inizio della trasmissione, dopo pochi minuti spengo la radio. Avete toccato il fondo. Per me, quando tutto sembra poesia. 80 euro al mese significa poter andare a mangiare due volte fuori, significa poter fare la spesa per due settimane, significa insomma assicurare un po' d'ossigeno alle famiglie italiane. Scusa, che cos'è che non ho considerato? Quale detto, contesto non andare ho... a mangiare due volte vabbè, fuori quella è una cosa. Normale trattoria, ha perfettamente ragione, è vero. Vabbè, ma quello si sì, quello poi dopo darsi. Sui 25 quella è la prima euro, cosa. Ha detto un'altra euro cosa. Se non vai in un grandissimo ha ristorante. Ha detto un'altra cosa. Proseguendo il suo ragionamento, ha detto si può fare una spesa di 80 euro per no, due settimane. No, ha detto si può fare la spesa per se due tu, settimane sì, con 80 per, euro, ma dove? Perché? Come? Allora, se certo, tu hai dipende, se ti vuoi avvelenare, se ti vuoi avvelenare non c'è dubbio. Se tu compri dei prodotti di base che non sono ad esempio per due settimane. Ma dipende. Tu hai mai fatto la spesa? Ma dipende no, da chi, a chi no, ti riferisci. Perché hai la servitù che te la fa. Ma quale servitù? Io che vado a fare la spesa so io la che se non compro non lo guarda so. Guarda che ce l'hai tu la servitù. No, io tu c'hai la donna io fissa. Io no. Fare, ma tu io hai vado, la donna vado fissa. La spesa, io no. Vado a fare la tu spesa. Hai la donna allora, fissa. Io no. Tu hai la donna fissa. Io vado a fare comunque la spesa. Vado a fare la spesa. E quando devo comprare i prodotti di base che non sono ovviamente gli shampoo. 80 euro due settimane. Siccome tu non sai. Cos'è che costa tantissimo? Ma io lo so benissimo, faccio la spesa cosa? Molto sentiamo, più di te. Sentiamo, molto cosa più costa di te. Tanto. Comunque, allora, le cose perdere. Per la casa, i detersivi, quelle cose che sono carissime. Non si riferiva a questo. Le cose di base, il pane, vabbè. Il latte, la pasta, vabbè. I formaggi. Non ha detto questo. Non ha detto questo. È la spesa non di ha detto base, questo. Con 80 euro, se non stai attento, questo. La fai. Non questo era il senso. Non è che è scesa nel dettaglio. Non è che è scesa nel dettaglio. Quanto costa? Ma non è che difendo la Picerno in quanto Picerno. Ma non è vero. Non è che difendo la Picerno. L'avresti detto Berlusconi e l'avresti preso per il culo per 100 anni. Ma non è vero, dipende che cosa Daniele dici. Se da non Roma. Sa quanto costa fammi un pacco di pasta. Daniele da Roma. Certo, ma lei ha fatto un ragionamento generale. Ma infatti, Daniele da Roma. Poi uno si può attaccare su qualunque cosa. No, non si può attaccare. È quello che leggo, ma è quello che la... sento. Due settimane, 80 euro, ha devi detto, comprare solo cose due volte basiche. A mangiare fuori. Daniele ha detto. Non ha detto questo. Daniele questo da Roma. Era il senso. La spesa, ma come era? Carne, è una polemica capziosa. Daniele da Roma. Ma non ha fatto l'elenco. Poi dipende per quante persone. Poi dipende per quante persone. Ma non ha specificato, ma è evidente. Non lo fai la intanto spesa per due persona, settimane. Non la fai. Scusami, hai detto giusto. Dipende per quanti se vuoi entrare. Ma anche per una sola persona. Anche per una sola persona. Di questa polemica, no. Non ha, siccome sono 80 a persona, nel merito ha perfettamente ragione. Che Daniele vai due volte Roma. A mangiare fuori. Daniele ha perfettamente da ragione. Vabbè, ma devi dare ragione a Pina Picerno del Partito Democratico. Ma no, contento se tu. Dovesse dire una contento stupidaggine, tu. Le dirò che Daniele ha detto una stupidaggine. In questo caso, non ha detto una stupidaggine. Non ha detto una stupidaggine. Polemica sterile e stupida. Benissimo, Daniele da Roma. Dal mio punto di vista. Ma modesto. Certo, non mi stupivo, no, non mi sarei stupito no, del contrario. Quando uno dice una roba intelligente, Daniele da Roma. È stupida, è stupida. Questa è stupida polemica. Daniele, vai. Non si sente niente. Silvano da Genova. Pronto? Dimmi, Silvano, dimmi. Ascoltami, Cristiano, volevo soltanto dire una cosa. Dimmi. Ogni volta che sento Parenzo dire basta che parli di qualcuno del PD e va tutto bene, sia ma che dica vero. Che con 80 euro riesce a fare la spesa per due settimane, ci provate lui, io sono single, pensionato, una vita che ho lavorato come imprenditore, eccetera. Sì. Ma chiunque che parli, pur che sia del PD, va tutto bene. No, ma lei che è pensionato, quanto prende di pensione lei? Quanto prende di pensione? Io per me Parenzo è una cosa incredibile, seguo la zanzara da 2 anni, è una cosa incredibile. No, ma non ho capito, io Silvano, quanto lasci perdere Parenzo, quanto prende di pensione lei? prendevo 800 euro, ho fatto un prestito per aiutare mio figlio, sono 6,50 al mese. 6,50, 80 euro, lei ci fa la spesa per due settimane, come sostiene la signora Picelli? Io da solo con 80 euro tiro, ci sto dentro se mangio la cazzo di cane, vogliamo dirla così? Per quanto okay. Ci sta dentro? Per quanto? Ma io spendo minimo 50-60 la settimana da solo. 50 la settimana da solo. 50 la settimana da solo. 50 la settimana da solo. Ma che dipende se uno dice delle frasi così? Vado nei supermercati del cazzo. Ma certo. Ma prendi la carne a meno, che tutto a meno, tutto a meno. Non entriamo nel merito. No, lei non è entrata nel merito specificando cosa compri. Ci provi Parenzo a dar ragione a quelli del PD, andate lui a fare veramente la spesa con non è ragione del PD a... da solo, ma può anche essere, mangi un po' di pane, un po' di cazzate, beh certo, se vai con le scatolette 80 euro certo. Non c'è dubbio. Fratello con due o tre persone che voglio vedere che dove cavolo vai. Emanuele da Udine, grazie Silvana. Emanuele da Udine. Oh, non ci fosse una testimonianza che mi arriva di una persona. Io voglio che mi chiami una persona che mi dice: io guarda, guadagno tot e con 80. No, ma stai zitto un attimo. Con 80 euro. Con 80 euro faccio la spesa per due settimane. Una persona voglio, una. Sito che sto consultando di quale ma no, ma per fare la spesa online. Emanuele da Udine. Non voglio dire la cosa a Milano. Emanuele da Udine. Sul sito. Serenità. Emanuele da Udine. Dimmi. Presente? Sì. Buongiorno, buonasera, salve Cruciani, salve Parenzo. Ciao Emanuele. Allora, prima di tutto, io la spesa con 80 euro due settimane ce la riesco a fare nei discount, riesco a pigliare anche dei prodotti di marca, devo un po' rompermi i coglioni, ma ce la faccio. Vi dico la verità. Cioè con 80 quindi, euro lei riesce a fare la spesa per due settimane, mangiare da solo, 40, da solo, 45 euro, no, da solo, io e la mia ragazza, ah, lei spende 80 euro per fare la spesa per due persone in un discount per due settimane, ma di che stiamo parlando? Ma lei si droga? Ma perché gli voglia dire che così? Mi drogo. Cioè in che senso si droga, scusi? Ti prende in giro? Eh? Ti prende in giro? Io... Se lei considera le sostanze stupefacenti leggere droghe, io mi drogo da circa 20 anni. Cioè da 20 anni lei si fa le canne? Ma voglia, sto benissimo. Quante al giorno? Anzi, dipende i periodi. Vabbè, adesso guardi, sto giusto facendo un acquisto da... Come un sta amico, facendo? Non una persona disonesta. No, ma ci faccia sentire in diretta. Scusi, ci faccia sentire in diretta questo acquisto di hashish di marijuana? Da no, questo... no. Ma no, come no? Il mio amico è una persona molto riservata e non vuole. Cioè, lei sta andando, ma dove si trova lei in questo momento? A casa di. Sì, sì. A casa di questa persona? Certo. Che è il suo pusher? No, non è il mio pusher, è un mio amico. È un suo amico che ha una riserva, una scorta di hashish, sì, di marijuana. È una persona per bene che lavora, si fa un culo così tutti i giorni, no, tutta la settimana. D'accordo, non ho detto che è un delinquente. Non ho detto che è un delinquente, però perché ha a disposizione. Ma questo vuoi intervenire a tempo debito? Gli hai dato del delinquente? Ma io non gli ho dato del delinquente. Sì, ho detto... dici chi è questo qui che le fornisce come fosse un criminale. Ma non ho detto assolutamente. Io ho detto se uno va a comprare, io sto andando a comprare la droga, non è che io giro per esempio con la droga in mano, no, con l'hashish in mano, non giro con l'hashish in mano. Saresti meglio, potresti farlo. No, ma non giro con l'hashish in mano, evidentemente sta andando da qualcuno che ha dell'hashish in mano, della marijuana in mano, signor Emanuele, giusto Emanuele? Sì, d'accordo, ma chi è questo qua? Cioè, com'è che ha tutto questo materiale in mano, tutti questi panetti, come si chiamano? Tu che sei un esperto, no, Parenzo? Che panetti, no, ma scherza, no, noi siamo naturalisti, noi siamo da... Cioè ha dell'erba in mano, ha dell'erba, che cos'ha? Sul tavolo, non in mano, ecco, in questo momento. Sul tavolo. Anzi, adesso guardi, se aspetta un attimino, proprio ce la facciamo in diretta, guardi. La voce però non è proprio... Fumiamo in diretta, vabbè, però non si sente. No, sono sobrissimo, no, le assicuro che... Non ho, anzi, oggi non ho fatto uso di nulla, ed è più di una settimana che non faccio uso di nulla, sono una persona lucidissima, una dialettica abbastanza forbita, e parlo l'italiano molto meglio di tanti politici che le droghe, che sulla marijuana rompono i coglioni e la considerano una droga, ecco. Allora? Partita sta canna o no? La sta rollando, la sta facendo un attimino, insomma ci vuole il tempo debito, Cruciani, non possiamo mica fare miracoli. Ma com'è? Grossa, lunga, com'è sta canna? È ancora in fase di preparazione, diciamo che in termine tecnico c'è la mista. La mista, ma c'è, che sta mettendo dentro, scusi, un po' di... cosa vuole che si metta dentro? Il rosmarino, l'erba... No, tabacco, l'erba in più, tabacco, ragione, ma io sono ignorante in questa materia. E guardi che la cosa che fa male, lì cazzo, il tabacco. Ah, il tabacco, bisognerebbe fare una cosa solo di erba, solo di marijuana. Fa male lo stesso, ma fa meno male del tabacco, che è conciato, è pieno di additivi, ha dentro arsenico, ha dentro cazzi, ha dentro mazzi, e quello però ce lo vendono, ha capito? E intanto ha finito di rollare o no? Ha finito di rollare o no? Sto lavorando. Resti lì un attimo, resti lì. Due cartine corte per quello. Resti lì un attimo, Emanuele da Udine sta rollando una canna. Insieme a un amico dove è andato a comprare, dove è andato a rifornirsi, così io dico, ma rifornirsi non in senso, come dire, negativo, eh? Anna Maria da Milano. Salve Cruciani. Dimmi. Buonasera. Dopo aver sentito la dichiarazione di quel gentleman di Bonanno nei confronti della Boldini, sì, vorrei fargli un regalo, mandargli una cassa di spigole puzzolenti, ma non so dove mandargliele, se a casa sua oppure in Parlamento. Le do un indirizzo, perché vuole mandare le spigole puzzolenti a Bonanno? Dopo aver sentito quello che ha detto nei confronti della Boldini. Perché ha detto che la Boldini è una stronza? Infatti, ma lui si è comportato esattamente corrispondente a quel titolo. Cioè da stronzo. Momento che lui la Boldini cosa doveva fare? Quando uno fa delle piazzate indegne, certo, in Parlamento, come minimo deve dare delle sanzioni. Ecco, e la mia sanzione è una cassa di spigole puzzolenti. Gigi da Venezia. Gigi. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. È un po' difficile intervenire e parlare degli 80 euro dopo il discorso della canna, diciamo, che stava rollando. Io ti ascolto tutte le sere con piacere, sì, e anche Parenzo, però stai un po' giocando su un argomento che è un po' serio, quello degli 80 euro. Effettivamente c'è gente che con 80 euro ci viverebbe due settimane, ti assicuro, perché basta soltanto andare a prendere per alimentari basici, il detersivo magari lo compri una volta al mese. Io ho, e questa è una faccenda personale, io mio papà, che non vedo da molti anni, a mia mamma da 200 euro al mese, e dividi per 4 sono 50 euro a settimana. Hai ragione. Io vorrei sapere tu. Parte che 80 euro sono 40 a settimana. Parte che 80 euro sono 40 a settimana, secondo la Picerno. Ma sì, ma no, ma tu. Cioè, io non ho capito. Non si. Mezzo pieno, quello che fa comodo a te. Vedi anche l'altro argomento. No, guarda, Gigi, io non sto dicendo. Ma io non sto dicendo nulla. Per me è una mancia. Per me, secondo me è una mancia. I provvedimenti strutturali, i provvedimenti importanti sono altri. Però questa qua è un'altra considerazione. La Picerno, esponente di spicco del Partito Democratico, candidato europeo, ha detto che con 80 euro si fa la spesa per due settimane. A parte che bisognerebbe specificare cosa si fa per la spesa. Perché se uno si va a comprare, per esempio, un filetto, perché i poveri o comunque quelli che hanno pochi soldi non possono mangiare il filetto, ma non possono mangiare la carne, che con 80 euro, certo, in due settimane che cosa fai? Che cosa ma fai? Tu sai che nei supermercati sono anche tutte le offerte della carne della settimana, vabbè, in offerta il 30 cioè, secondi, perché entri, devi entrare nello specifico ma con 80 euro non si fa nulla, dai, con 80, voi con 80 euro due settimane dietro il vetro, che guadagno 1.500, 80 euro due settimane di spesa, non dite cazzate, dai, dietro il vetro 80 euro non fate una mazza, dai, su, non dite minchiate, 80 euro due settimane di spesa, signora, che campate con 160 euro, campate con 160 euro al mese, potete campare, ditemelo, con 160 euro, e non campate con 160 euro. Allora c'è qualcosa che non funziona. Fulvio Remix, ormai è diventato il nuovo Riccardo, e intanto gli aderenti al club Riccardo da Roma fans su Facebook aumentano, però c'è un nuovo personaggio protagonista, Fulvio da Roma. Sui Balcani, siamo sotto le elezioni, voi parlate a milioni di persone, basta con le menzogne. E poi scusami, ma che cazzo di argomento è? È il primo contribuente. E non perché il primo contribuente non può essere il primo evasore. Ma che cazzo di argomento è? Omaggio al telefilm di Rin Tin Tin. Ma Gerbi dell'altro si parla sempre di scopate perché si ammazza di seghe, diglielo, lo dicono tutti, psichiatri, psicologi, donne, uomini, la mia esperienza. Io ho degli amici che parlano per le scopate e so che si ammazzano di seghe, Gerbi si ammazza di seghe, ne sono convinto. Parenzo non lo dice, il caro Parenzo, un altro leccaculo che tenga famiglia pure lui, vieni avanti cretino. Perché non lo sottolinei che si parla di frode fiscale e quindi è penale, non è amministrativo, dai mi calmo. Mangiare pane e gulag. Alle stronzate bisogna reagire, voi siete intellettualmente disonesti. Certo, lo so che la Zanzara è una piccola enclave di cazzaroni rispetto a un palinsesto serio, lo so benissimo, lo so Cruciani che tu non sei Giannino, non sei Barisoni, ma di fronte al fatto che questa è la quinta, sesta, settima volta che dice oh, negli altri paesi non vanno in prigione per evasione, oh, Sgarbi del cazzo. Fulvio da Roma Remix. più tardi anche Riccardo, eh. Caro Parenzo, sai chi si candida alle elezioni europee? Si candida. L'avrai, beh, letto, sì, l'avrai letto su tanta, tanta gente, gente. Tanta gente. Tra tutti i candidati, ce n'è, sì, uno, non dico a sorpresa, perché un po' lo sapevamo noi, lo avevamo anche un po' intuito, qualcuno ce l'aveva. Gliel'avevamo anche chiesto, probabilmente, in, sì, un'intervista che facemmo a Milano qualche mese fa. Esatto, esatto. Se non ricordo mai, gliel'avevamo proprio chiesto. Colui che ha accusato semplicemente di associazione a delinquere, somministrazione pericolosa di farmaci, truffa, eccetera, eccetera, sì, però si dice convinto di essere innocente, addirittura di meritare, questo, il premio Nobel, questo, di meritare il premio Nobel, e che dal 5 maggio, cioè dal lunedì prossimo, continuerà le sue sperimentazioni, l'esperimentazione del metodo Stamina sui pazienti a Brescia. Davide Vannoni, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene. Dai, questa storia, beh, del Nobel, bene, però, Vannoni. Non ho mica detto quello, sa, dice il titolista che come al solito non ha letto l'articolo. Succede così nei giornali. Io ho detto che il metodo Stamina, vabbè, il metodo, il, siccome il metodo Stamina, e lei è il simbolo del metodo Stamina, chi è che andrebbe, ma non l'ho mica inventato io. Sì, ma chi è che andrebbe a ritirare il Nobel in quel caso? Andrebbe, secondo, a ritirare, me, i due russi che l'hanno scoperto, l'hanno trovato e hanno studiato per primi questo tipo di cellule. Ucraini. No, erano russi. Erano russi, vivevano in Ucraina, ma erano russi. Sì, io non è che mi fido molto delle persone di quei luoghi, devo dire così, a istinto, così. Cioè, lì, no, è pieno di persone, insomma, poco raccomandabili da quelle parti. Comunque, vabbè, sarà. Senta una cosa, ma erano bravi, erano due ricercatori, ma sono due ricercatori, perché sono mica morti, sono due ricercatori, sì, e uno continua a fare il professore ordinario di genetica, sì, e l'altra la ricercatrice senior di staminologia. Sono gli unici che sono rimasti fedeli a questo metodo, perché gli altri stanno abbandonando tutti. Ho letto ultimamente due o tre specialisti che si sono rimangiati quelli che hanno detto, o sbaglio? No, guardi, dal nostro punto di vista, gli specialisti che hanno collaborato con Stamina, beh, due o tre si sono rimangiati quello che hanno detto prima, eh? No, c'è uno un medico, pensi, un medico che non tre medici hanno fatto retromarcia, tre medici. No, vabbè, comunque. No, che tre, attenzione, un medico che non era assolutamente, vabbè, però, pagato da Stamina, che era stato chiamato da due associazioni di pazienti, non di Stamina, anzi due associazioni di malati, che hanno pagato questo qua perché valutasse, sì, dei pazienti. Questo qua ha fatto anche delle prescrizioni, sì, per fare le cure. Però Stamina, un attimo solo, Vannoni, voglio sapere da Emanuele da Udine se si sta fumando la canna. Emanuele? Certo. Come andiamo? A che punto siamo? Siamo quelli della fine della verità. Si è perso il corpo. No, aspetta, forse lei è annebbiato un po', si sente poco, forse la canna ha danneggiato le comunicazioni telefoniche. Emanuele, allora a che punto siamo con sta canna? Parli bene. C'è la voce, scusi. Ah, ecco. No, giustamente. Dopo lei si incazza, se non lo tolgo, lo so. Come siamo con la canna? Bene, bene, siamo quasi alla fine, perché ha fatto sentire il ragazzo di Roma. Ma ve la state fumando in due? Certo. Fuma, ma da solo, ma quanto, solo, quanto gli ha fatta pagare sta droga? Sto dipende hashish. Quanto ha preso? Eh? Ma è un prezzo da amico. Cioè quanto? 10 euro quanto? Frazione, ma che 10 euro? Vabbè, che da amico, ma l'elemosina no. Cioè quanto costa? Quanti grammi? Canna, e dipende quanti grammi ha preso, no? Quanti grammi ha comprato? Dipende dalla qualità dell'erba, se è fumo, se è erba, se è primo taglio, se è scang, e dunque? Se è erba buona. Questa non so, quanto la fai questa, sì? Zio, quanto la fai, zio? A 10 al zio, questa, 10 al grammo. 10 al zio. 10 al grammetto. Sì, ma che significa? Scusa, dieci... mi passi zio un attimo, scusa. Zio, passami zio un attimo, zio. Scusa, zio. Ma che zio, cazzo, ho 34 anni. No, passami zio, che volevo chiedere una cosa sui 20 grammi un attimo. Vannoni, lei si è mai fatto una canna? Ma avrebbe fatto bene, guarda. Avrebbe fatto meno danni. Quando era piccolo, sì, che vuol dire quando era piccolo? Quando era ragazzo? Sì, quando avevo 14 anni. Beh, però c'ha la faccia un po' da quello che si fa un po' di canna. Lei dice, ma no, ma guardi che prima avevo i capelli corti, così. Sti capelli lunghi, un po' trasandato, vabbè, questo è un luogo comune, sto dicendo una cazzata. Secondo me però fa un po' di danni alla memoria. Cioè se l'è fatta... No, però da quello che ho letto, che ho sentito con tanti anche medici che ho parlato, rovina un po' la memoria. Ma poi, lei ha la memoria rovinata, Emanuele? Tanto Vannoni non è un medico, non si preoccupi, è una delle accuse che fanno a Vannoni. Anche se lo fosse, viva Dio. Cioè, lei la memoria funziona bene o funziona male, Emanuele? Ogni tanto qualche colpo lo perdo, però insomma, se devo ricordarmi le poesie a memoria, me le ricordo, ecco, voglio dire. Allora, però tu ti Parenzo, tu ti aspettavi che alla fine Vannoni si candidava pure alle europee? Io dico adesso, Vannoni, va bene tutto, lei può darsi che finirà in galera, può darsi che venga assolto. Vedremo. Magari gli danno il Nobel. Oppure le danno il Nobel, non lo so, magari salva un sacco di famiglie, salva un sacco di bambini, perché lei dice che ha già salvato dei bambini? Beh, io personalmente no. No, il metodo. I medici di Brescia che hanno applicato le terapie, tant'è vero che questi bambini sono tutti belli vivi. Cioè, lei dice io sono alla fine un benefattore, lo dica. Ma io penso che no, di essere un benefattore no, però i pazienti, tanto lo sapete, sono tornati tutti gratuitamente, che si dica che abbiano scritto. Quindi, però Vannoni, lei dica, io ho salvato la vita a un sacco di gente e mi vogliono portare davanti al tribunale. Io ho contribuito a salvare la vita a dei bambini e anche a degli adulti. Sono tanto contento di questo, perché se la mia vita andava tanto bene. A quante persone? Come? A quante persone ha salvato la vita? Beh, ho contribuito a salvare la vita. In questo momento ci sono 34 persone in cura a Brescia. Bambini che erano dati per spacciati. Dunque lei ha salvato la vita. Il piccolo Gioele, di cui non faccio il cognome adesso per privacy, ma che di cui hanno raccontato tanto, quando è arrivato a Brescia, prima di fare la prima infusione, ha fatto 3 arresti cardiocircolatori e al terzo il dottor Porta, che era il medico, poi è stato il suo medico prescrittore, senta, ha detto: io non lo rianimo più. Permetta però, Vannoni, perché sono di là di tutte aspetta le canne. Aspetta un attimo, la situazione delle canne. Emanuele, come andiamo? Abbiamo acceso la seconda, è rilassante, tranquilla, non è una cosa che... adesso io, Cruciani, mi faccio sfatare questo mito. Cioè il secondo che lei si sta facendo, il secondo che andiamo in diretta. Ma scusa, potevi farti un castelletto? Una settimana però, comunque, guardi, mi faccia dire una cosa sola, mi perdoni, che poi ti fa anche per la mia stessa squadra, quindi le voglio bene. Allora, vai. Allora. Le dico questa cosa qua, fumare le canne, va bene, quando ti fumi la canna sei un pochino sul rincoglionito, va bene. Beh, questo sicuro. Ma siamo sicuramente meno rincoglioniti noi di gente che si rincoglionisce a bere birra al bar, si ubriaca e magari dopo piglia la macchina e va a schiantarsi e va a stamparsi. Beh, la macchina la può stampare, la può prendere pure lei, può andarsi a stampare pure lei, Emanuele? Sì, no, guardi, io le dico la verità. È sbagliato, ho guidato da fumato e ho guidato da ubriaco e le posso assicurare che da fumato si guida molto meglio che da ubriaco. Lo consiglierebbe, quasi lo consiglierebbe. Io non consiglio neanche di fumarsi le canne, sa, ma io non consiglio neanche di fumarsi le sigarette, se devo essere onesto, ma io non consiglio neanche di mangiare la canna. Allora resti lì, quando ha finito la seconda canna la richiamiamo in causa. Vannoni, candidati in Europa con una lista che io cambio, adesso dico tutto, lei potrebbe finire in galera, lei dice di aver contribuito a salvare 34 bambini, ma perché si candida alle elezioni europee? Cioè, sorge il sospetto che alla fine lei è messo sotto accusa, un po' sputtanato, diciamo la verità, e anche rinnegato da quelli che l'avevano appoggiata prima, perché lei è stato appoggiato da un sacco di gente, non ce lo dobbiamo dimenticare. Parenzo, Vannoni sarà pure colpevole, vedremo, di delle più grandi nefandezze, però da Celentano fino, diciamo la verità, alle Iene, molti l'avevano appoggiato e osannato, passando anche da Fiorello. Siamo con Davide Vannoni, il grande accusato del metodo Stamina, considerato un truffatore pazzesco dalla Procura di Torino, caro Parenzo, è candidato nella lista Io Cambio alle elezioni europee. Secondo te perché si è candidato, Parenzo, Vannoni? Ma si è candidato semplicemente per in attesa del processo e quindi poi della sentenza e tutto, per non perdere la faccia, perché le accuse sono gravissime. Io fossi in lui, l'unica cosa che cambierei e sono proprio i suoi connotati. Cioè, voglio dire, cosa c'è di più terribile? Io non sono un colpevolista, cioè, dicendo in che questo. Vuole tornare il 5 maggio anche con i carabinieri addirittura a... Lui è una speranza. Se le accuse fossero vere, io in questa fase qui direi: aspetto la sentenza, rimango buono, trovo il modo per prendermi la miglior difesa e per difendermi da tutto e dimostrare che sono una persona per bene, perché chi gioca con la vita delle persone e in più si candida... Insomma, è una cosa di una gravità inaudita. Vannoni, perché si candida? Perché? Ma io mi sono candidato per continuare la mia battaglia per Stamina per le cure con le staminali. La poteva continuare lo stesso senza candidarsi alle elezioni. Ma c'è l'immunità. Sai cosa succede? È che poi a un certo punto, come è successo, rimane solo più lo sputtanamento e cala il silenzio, nessuno ti fa più rispondere. Ma non lo so questo. Funziona un po' così. Senta, sai, si sente abbandonato, si sente abbandonato da un po' di gente, per esempio le Iene, no? Lei ha collaborato con quel programma, o sbaglio? No, io no, per la verità. Le Iene hanno fatto 22 servizi parlando delle famiglie che ancora tutte vogliono continuare. Servizi le cure, tutti favorevoli alle sue cure, dai. Servizi tutti favorevoli, diciamo la verità, dai. No, hanno parlato le famiglie, hanno raccontato i loro risultati. Sì, d'accordo, ma erano tutti servizi favorevoli, dai. Erano servizi militanti, o no? Sa che nel primo servizio mi hanno chiesto, ma lei è inquisito dalla Procura di Torino? Gli ho detto vabbè, sì. Ma quello che c'è. Quindi quello non no. è che hanno nascosto e mi hanno dipinto come un santo. Hanno raccontato la storia di queste famiglie e forse... E credo che sia uno dei un tema molto interessante, ma non solo per i risultati che hanno ottenuto i bambini, perché quello è un aspetto, per il fatto che queste famiglie hanno ottenuto l'ordine di un giudice. Sì, questa è una cosa che solo in Italia può succedere, che il giudice, non so che tarro o cose di questo tipo, ordina. No, il giudice fa applicare una legge, che è la legge Turco Fazio, che è una legge che c'è ma in Italia in vigore. Le cure vengono decise dai medici, non dai giudici. L'Italia è un paese assurdo, dai, Vannoni. Le cure devono essere decise dai giudici, ma quando mai si è vista una cosa del genere? No, ma dai giudici si va quando hai una legge che ti permette di fare qualcosa. Vabbè. E qualcuno te lo impedisce. Senta, allora vai da un giudice che dice: è vero, c'è la legge, lo puoi fare. Lei che vuole fare il 5 maggio? Che vuole fare il 5 maggio? Non ho capito. C'è lunedì prossimo. No, 5 maggio ci sono delle ordinanze di giudici che ordinano all'ospedale di riprendere le cure per questi pazienti. E questi pazienti, dunque, lei andrà dove? A Brescia? Non hanno ottenuto nessun beneficio, guarda caso dopo 3 anni che fanno la terapia vogliono continuarla a dimostrazione del fatto che non sono stati truffati, e quindi si recheranno agli ospedali civili. E lei, lei andrà con le famiglie? Un parere legale sul fatto che cosa dovevamo fare, perché da un lato abbiamo una procura che ci ha inquisito, sì. E ricordo che non ci ha ancora condannato. No, ma lei, no, ma quello non c'è dubbio. Lei che cosa vuole fare il 5 maggio? Andare con la forza pubblica per far curare questi bambini? Sono i pazienti che lo fanno valere il loro diritto e sono loro che andranno lì con la forza pubblica. Senta, quindi... ma Grillo all'inizio non era dalla sua parte? Ma io con Grillo non ci ho mai parlato in tutta la mia vita. I 5 Stelle hanno avuto al Senato un comportamento schizofrenico. Prima hanno detto che votavano a favore, poi hanno cambiato idea e hanno votato contro. Ma c'era un deputato che ha detto... il voto hanno rivotato a favore e quindi alla fine era passata al Senato, poi è passata alla Camera. Prima hanno votato contro, poi hanno rivotato a favore. Cioè, qua non si capisce assolutamente... Però scusi, Vannoni, all'inizio c'era un deputato dei 5 Stelle che ha detto che la vostra cura era credibile, o sbaglio? No, no, ha detto che aveva sentito i pazienti, tutti i pazienti in cura, e ha detto, si trova ancora su YouTube l'intervista che ha fatto, dove in realtà era un dialogo con noi che avevamo fatto insieme a tanti altri deputati, e avevano detto, la cura funziona. Senta un attimo, ma la stupisce che molti adesso non si facciano più sentire? Che ne so, Celentano, cioè non si facciano più sentire? No, guardi, allora Celentano non ha detto viva Stamina e non gli ho mai parlato. Vabbè, ma cioè, lei si sente abbandonato da qualcuno di questi qua? C'è stata un'ipocrisia da parte di questi personaggi che prima in qualche modo hanno parlato bene di Stamina o avevano detto che c'era qualche speranza e poi alla fine sono stati zitti, o no? No, adesso c'è un po' di silenzio e lo capisco, è proprio quello che io voglio evitare. Perché il silenzio uccide, ma soprattutto non è che uccida Stamina, uccide questi malati che hanno dei diritti da portare avanti. Ma i diritti dei malati, questa cosa dei diritti dei malati, i malati devono seguire la medicina ufficiale, non è che possono inventarsi le cure che non esistono, cioè rivolgendosi ai giudici. No, attenzione, questi malati sono curati in un ospedale pubblico. Ma questa è la follia, con l'approvazione del comitato etico. Quindi queste sono le basi della legge Turco Fazio che prevede che si possano applicare delle terapie. Ha paura di finire in galera lei? Ha paura di finire in galera lei? No. Ma si aspetta che l'arresteranno prima o poi? Beh, non vedo perché. Io sto ubbidendo a degli ordini della magistratura. Cioè in che senso? Sulle cure Stamina. Parenzo? Cos'è secondo te un buffone, un ciarlatano, un venditore di fumo? Questo lo dirà la magistratura. La cosa più grave in assoluto è che in quell'inchiesta c'è un signore dell'AIFA che anche lui è indagato. Questo non è un dettaglio da poco. Io mi fido dei medici. Io mi fido dei medici e non dei magistrati quando devono decidere su una cura, questo è fuori di dubbio. Dopodiché uno che ha promesso un sogno, cioè cure alternative rispetto alle cure ufficiali attestate, e in più si candida, per me è un paraculo, perché invece in una fase come questa dovrebbe starsene buono con le sue carte e i suoi ottimi avvocati e difendere il suo onore e quel che invece lui si candida. E questa è la cosa più grave in assoluto, perché è accusato di cose come Vanna Marchi, una roba terribile. Cioè Vannoni come Vanna Marchi secondo te? Lavanna Marchi vendeva dei sogni, vendeva dei sogni. Diceva che il sale poteva curare. Vannoni, lei per curare... Parenzo è come Vanna Marchi. No, ho detto che la cosa. Questo è un po' grave, perché non è vero. Vanna Marchi non dava le sue medicine, tra virgolette, dentro un ospedale pubblico, non le dava per la scienza ufficiale. E non le dava no, ma io le dico che per la scienza, io mi auguro che lei riesca di. Ma lo dico da persona, voglio dire, no, non da paziente, perché per fortuna per ora non c'ho nulla, nonostante tutte le maledizioni che mi mandano. Ma andresti non ho nulla. Mai se avessi ma, caso, no, ecco, io in questo senso dicevo non andresti Vanacchi, mai cioè, da Vannoni. Come non andrei mai, perché voglio che magari riuscirà a dimostrare che la sua terapia è efficace, ma io voglio che lo dica non la magistratura con le Vabbè. Sue sentenze, lo dica un protocollo scientifico fatto con come Dio comanda, e se c'è un'inchiesta pesante come questa io non mi candiderei mai alle elezioni, mai. Vannoni, aspetterei come Vanna sentenza. Marchi dice Parenzo come no, Vanna detto come Marchi. Vanna Marchi. Sì, come no, no. Rimandato, ma perché ti tiri indietro? Ho detto che la paura, che l'atteggiamento del paziente che chi sta male, non mi tiro indietro di fronte a nulla, ho detto che chi sta male proverebbe qualunque cosa pur di avere, come dire, il sogno di stare meglio, per cui le persone disperate che andavano da Vanna Marchi con la speranza che quel sale fosse davvero benefico, no, è che non dai. Si specula sul... Ma cosa fai la zanzara con me? L'hai paragonato a Vanna Marchi, ma cosa... dai. Io ho spiegato, Vannoni ha capito cosa intendo. Sì, ecco, l'hai paragonato a Vanna Marchi. È un paragone che non regge per niente. Ha anche capito perché cosa intendo? Vi ricordo che ad applicare questa terapia, non per ordine dei giudici, ma per loro scelta, sono stati 20 medici, 2 direttori generali. Vabbè, e a dare l'assenso è stato anche un dirigente dell'AIFA. Più un indagato, dirigente del ministero che non è tra questi, che ha mandato dei pazienti ma a Ma questo non significa nulla. Non è che vuol nulla. Dire. Ma sa. Visto ora che indagato. Si parla di una sperimentazione, e io sono d'accordissimo a farla, tant'è vero che abbiamo anche consegnato il protocollo per la sperimentazione, è il ministero che non la vuole fare. Ma quello non c'è dubbio, perché non la vuole pensa, fare perché pensa che cioè sia non buffonata. Il ministero, la politica, scusa, bisogna specificare, dei medici, cioè non è la Lorenzin, sono dei medici che questo, l'hanno detto. Non è questo il luogo del dibattito. No, non sono dei medici che non l'hanno voluta fare. Vannoni, arrivederci, grazie. Dai. Guardate, ho visto che avete molta pubblicità, quindi guadagnerete moltissimo. Auguri e complimenti. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Sei ancora a casa, Emo? A proposito di Vanna Marchi, ennesima produzione della coppia Nobile Marchi, caro Parenzo. Ma dov'è che producono? Non capisco. No, registrano delle cose che poi mandano su YouTube. Ma sarà permesso farlo oppure no? Cioè, sì, sì, per carità. Ah, certo. Ecco, appunto. No, ma ci mancherebbe. Ce l'hanno stavolta con gli stuzzicadenti. Lo stuzzicadente è il protagonista di oggi. Terribile, eh? Stuzzicadente è una delle cose più brutte che ha inventato l'essere umano, che già a partire da quello che dicevi tu, da un albero se ne faceva uno. Sì, no, c'era una ricordo, pubblicità, sì. Io non mi ricordo chi la faceva questa 100 pubblicità. 100 anni fa, al tempo di... Delle... Al mio tempo, sì. Al mio tempo, al, sì. Al tuo tempo, sì. Era un tempo, Da, vabbè, dai, un albero e sì. Dai, e dai, e tagli, e tagli, e tagli, e alla fine fanno uno stuzzicadente. C'è gente che appoggia la dentiera sul tavolo. Esiste il filo interdentale, esistono tante cose, c'è lo spazzolino. Ma in privato, cioè con i vostri denti sono i vostri, li avete pagati, li avete dalla nascita, la stessa cosa. Anche perché i denti costano. Dai, su. Guarda, ma i denti e costano. Chi si leva la dentiera e l'appoggia sul tavolo? No. Ne vogliamo quello, parlare? Perché c'è ne anche vogliamo quello, parlare? Eh? Perché conosciamo anche questi, No, io la adesso non sono pronta a morire. Non sei pronta? No, non sono pronta perché... Ah, purtroppo lì, guarda, poter vendere quello gnoccola sarebbe l'affare del secchio. Adesso ci attrezziamo, Giorgio, per vendere l'immortalità. Ma è un io sogno, però eh? Ho conosciuto... Ma parte sempre dei sogni. Io però... È caro, È caro, sì. Io ho conosciuto chi ha venduto l'ibernazione. Vogliono vendere l'immortalità, Ma chi era l'altro genio che interloquiva con le megere, con le due Erinni? Chi era? Chi era l'altra? Chi era? Allora, adesso, chi era l'altro mago? Ritorniamo seri una volta. Chi era l'altro? Ritorniamo seri per un momento. Allora, 5 minuti di applausi, circa 5 minuti di applausi da parte dei delegati al Congresso Nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia. Applausi per i tre, per tre dei quattro agenti condannati in via definitiva per la morte di Aldrovandi, del 18enne Federico Aldrovandi. Cioè c'era il congresso del SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia, sì, Ci sono stati 5 minuti di applausi per gli agenti di polizia condannati. 5 minuti di applausi. Adesso va bene tutto, però 5 minuti di applausi per tre condannati. Cioè anche tu ti stupisci. No, ma certo che mi stupisco. Ma certo che mi stupisco, questi sono stati condannati. Sono stati condannati. Se persino tu ti stupisci, vuol dire che l'hanno fatta grossa. Tra l'altro condannati anche in maniera lieve, dicono alcuni, rispetto a quello che hanno fatto, no? Certo. Però in questo caso 5 minuti di applausi, 5 minuti di applausi da parte del Sindacato Autonomo di Polizia. 5 minuti di applausi. Mauro da Mantova, eccolo qua, Mauro è tornato a sorpresa. Ciao, Luciani. Mauro, dimmi. Ascolta, ma non è ancora soppresso quel mica normale lì, quello sfigato maledetto lì? Ma chi? Ma con gli Arenzoli, quel coglione lì. Parenzo, no, perché è qua e vive Vegeto. Ma perché lo butti nel chiasso e tiri l'acqua? Tanto non è stronzo, cosa tieni lì a fare, non è stronzo? Che al massimo l'unica cosa che può fare è puzzare. Addirittura? Gli stronzi che fanno? Puzzano. Non servono un cazzo, al massimo può fertilizzare, ma lui è talmente coglione che non serve nemmeno a nemmeno fertilizzare sto coglione. Scusa Mauro, ascolta, perché per come mai ti sei riappalesato oggi? Spiegami Mauro, che è successo? Ascolta, dimmi, ascolta. Ma quante volte ci devono ancora prendere in giro? Ma chi? Sta cricca fatta di ebrei economico, politici, finanziari, multinazionali, banchieri, assicurazioni, assicuratori, tutta sta merda qua. Ma cosa pensa di prendersi per il culo? Ma chi sarebbe? Chi sono questi ebrei ma che dici tu? Chi ascoltami sono? Bene, ho ti fatto una domanda da 10.000 euro. Metti che sia i vecchi show che faceva il caro Mike Buongiorno. Domanda da 10.000 dollari. Sì, dimmi. A che comunità sono in mano banche, assicurazioni, farmaceutiche, petrolifere? Dai Mauro, allora è sempre lì e ci siamo sempre intorno alla stessa giostra. Cioè, maestro, tu sei quello che è convinto che ci sia la cricca, la lobby ebraica che domina il mondo, Mauro, dai. Ma perché? Allora firma, cos'è l'ubriaco quando ha fatto queste dichiarazioni in TV che ha messo fuori il suo libro? Cos'ha? Ma chi? Chi? Alan Friedman. Alan Friedman, certo, non ha parlato di lobby ebraica, ma di che stai parlando, Mauro? No, ma tu sai chi c'è dietro Renzi? Ascolta, ma me lo fa passare per stupido. Guarda, ti interessa, mica stupido. Qua manca 45 anni che sappiamo che dietro ai poteri forti, che io la chiamo mafia, mafia politica, certo, non c'è ci sono poche persone, tutti sono la triade, c'è la triade. Certi magistrati, poi? Sappiamo già chi sono, i russi liberati, le Pasquale, quella gentaglia lì. Poi abbiamo dei Benedetti, dei Prodi, sono i soliti tre. Non ho capito. Il Giambellino. Tre. E quelli che comandano, cosa? Il mondo, l'Italia, l'Europa, chi sarebbero? Ascolta, ma la barzelletta più bella, sai qual è? Qual è la barzelletta più bella? A parte che intanto oggi al TGCOM 24 da Liguori mi sono sfogato anche oggi. Cioè sei intervenuto, se credi, sei intervenuto al TGCOM 24 sì, da Liguori? Allora tu stasera ti vai a vedere se vuoi, non sei obbligato. Ti vai a vedere la replica, meno infatti male, mi sfatti. Però non col nome di Mauro, perché sono costretto a cambiare nome. Questo la dice lunga. La dittatura perché non ti fanno intervenire ai programmi, Mauro? No, sai perché? Perché qui ci abbiamo la censura. Sai che io non posso più parlare nei canali di Mediapason, vabbè che sono di media? Mediapason. Di Mediapason non posso Mediapason. Più parlare. Mediapason. Vale dire che le Lombardia, anche là ci ha lavorato quel coglione di Coglarenzo, lì ci ha lavorato, cominciato a rompere il coglione in TV, quello sfigato di merda lì. Davide, vuoi rispondere a Mauro? No, perché la lobotomizzazione non esiste più come pratica clinica. Allora, quindi non c'è poco da dire. No, però rispondi perché non si sente, non ho capito quello che vuoi dire. No, non c'è caso, dai, basta, caso clinico, si sa cosa dice questo qua, cioè poveretto. Va bene, hai ragione. No, hai ragione, è vero. Hai ragione su tutto, hai ragione. Mauro, lo dico in altre parti, non ti credere. No, ma fai bene. Ma hai ragione. Vabbè, poi Allora, ho letto oggi il TGCOM, ma cosa pensa Renzi di prenderci per i fondelli? Allora, 2 anni fa, quello che è andato a processare a Milano, sì, 2 anni fa, quando c'era ancora Ratzinger, contro il clero che è stato pestato dai guardie svizzere. Ma, chi, ma, succede, ma di che stai succede? Parlando? Ma di cosa stai parlando? Quello che è stato pestato quando c'era Ratzinger? Sì, ma era un mantruano, era andato a Milano, perché c'era in cioè tu eri Ratzinger. Andato e ti hanno pestato? No, no, lui, il mio amico, che non c'è più poverino, si è suicidato nel carcere di Cremona. Vabbè. Ecco. Mauro, ma siamo veramente al delirio, al delirio no, puro. No, non è il delirio, è che la realtà è questa. Comunque, ma la realtà, non c'è nessuna realtà, non c'è nessuna realtà, Mauro. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Io dico solo che questo programma sì. dovrebbe essere soppresso. Mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato, gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo a te, ma lei gira. Oh, intanto buon anno si era sfogato anche ieri sera a dov'era al solito, no? Quinta colonna. Senti contro Brosio, contro Paolo Brosio. Non è che ci sono solo i politici, i sindacati. Vabbè, non si va avanti finché non state zitti. La Chiesa ha dato un esempio. Sì, continua. Chi? Sì. La Chiesa con questo Papa ha dato un grande esempio. Si poteva solo migliorare. Che la nostra politica, cioè, prenda esempio. Aspetto da Papa Francesco. Aspetto che telefoni anche a me invece che a Pannella. E sarebbe meglio telefoni anche a me, non a Pannella. Che ma si può telefonare a Pannella che vuole la droga libera, che vedete di tutti i colori, telefona a Pannella. Ma io c'entra Pannella? Ma qua abbiamo i numeri. Allora. Mi dicono anche che va bene. Va bene Pannella. Che c'è? Una che fa fumare all'ospedale! Ma che c'è? Ma all'ospedale! Ma che c'è? Quel noioso insetto passa dall'orecchio e sempre gira intorno a te. E balli su twist, e balli su twist, la stanza da qui. Una volta col bacio e poi all'altro, una volta col bacio e poi all'altro. Prendila, prendila, scherzala, scherzala. Ti ho beccato, ti ho beccato, ti ho beccato. Non risponde, non risponde. Uomo o donna? No, no, uomo, uomo. No, è un poliziotto del SAP, capito? Hanno fatto 5 minuti di applausi per quelli che sono stati condannati per la morte di Aldo Bandi. Va bene, Emanuele, a che punto siamo? Sì, pronto. A che punto siamo? Mi sono anche ricordato di togliere il viva voce, quindi vede che la memoria funziona. Allora? Fatta anche allora la seconda canna? Certo, certo. Abbiamo fatto anche una terza del frattempo. No, vabbè, ma tre, tre canne. Adesso le spiego il perché. Adesso se mi lascia spiegare. Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi. Allora, il CBD... nella marijuana che stiamo che abbiamo fumato fino adesso sì. è molto più presente che il THC. Il THC sballa, il CBD rilassa. Questa è la sostanza. Possiamo dire che per le persone magari che hanno anche dolori muscolari, cose così, sì. giova. Sicuramente fa male quanto i classici farmaci che si prendono, lo dico per esperienza personale perché sì. Però lei ha la voce un po' impastata adesso. Io sono sempre con la voce impastata, Cruciani, perché si riempie. Sono un forte fumatore, ahimè. Di droga? No, di droga, anche di sigarette. Anche di sigarette. Me le faccio io, mi compro il mio tabacco, perché già che mi avvelenano almeno sì. e li pago. Sì. Li pago meno, no, col tabacco. Lei fuma sigarette e canne, proprio il pieno. Certo. Vabbè, certo. Emanuele, l'abbraccio, a presto, grazie. Sia bene. Sia bene, Cruciani. Ciao, ciao, ciao. Salve Parenzo. Mi faccio dire l'ultima cosa. Ciao, l'ultima cosa. L'ultima cosa che ho ottenuto. Cosa che ha detto Berlusconi? Che doveva ottenere la grazia. Sì, che Napolitano doveva dargli la grazia. Certo, allora, guarda, le dico una cosa. Ma Napolitano sta sui coglioni, ma è l'unica cosa che ha fatto di buono. E le dico una cosa. Berlusconi, ottenga un bel vaffanculo da me. Grazie e buonasera. Arrivederci. Questo dopo tre canne. Luciano d'Arezzo. Luciano d'Arezzo. Cosa ha detto la firma? Buonasera. Vai, Luciano. Parlo con Gianni Pinotto? Ma magari. Oh, madonna mia, due rincoglioniti al telefono. Sì, no, il lucido. Allora, intanto, Cruciani, te ti sciacqui la bocca a parlare a parlare di 80 euro perché sì, evidentemente la radio ti strapaga. Io dico quello che 5. Penso, Luciano, stai tranquillo. Sempre una serie di cazzate. Sì. Sempre una serie di cazzate. Può darsi, però, pensi che godimento essere pagato per dire cazzate, Luciano? Ma difatti, questo è l'unico tuo lato positivo. Ecco, appunto. Che ti invidio. Per il resto la tua testa di cazzo chiaramente sì, è quella che è, quindi sì, però voglio dire, torniamo al punto. Sempre meno della tua. Allora, torniamo al punto. Allora, per molte famiglie 80 euro rappresentano sì, un piccolo aiuto, una piccola soluzione per fare la spesa. La mia famiglia spende 200 euro alla settimana sì, per dare da mangiare a 5 persone, di capito, cui abbiamo un bambino di 2 anni. 200 euro a settimana, appunto. E piscia. 200 euro a settimana, 5. Se tu sai appunto, 200 conti, euro a settimana. Se sono 40 euro esatto, sì, euro alla settimana a persona. Senti, questa cosa mangiamo degli 80 carne, euro, degli 80 euro, come è stata detta dalla piscina? Allora, no, degli 80, non l'ha detto, non l'ha detto. Ma certo, ma ve lo dati alla persona, ma no? Ma scusa, che vergogna che siete, tu guarda. Ma perché ti fa polemica sulle stupidaggini? Vergogna. E a porre delle domande ai tuoi interlocutori, prova ad approfondire. Senti, Luciano, vai a quel paese, vai a fare incontro. Ma ti ha spiegato, numeri alla mano. Ma che ha spiegato? Giovanna da Modena, 80 euro a persona. Ma t'ha quale spiegato? Persona? Ma chi? Giovanna da Modena. Non voleva dire 80 euro. Ma uno può fare polemica anche su un pelo, ma uno può fare polemica su qualunque cosa. Giovanna ma deve da essere Modena, intelligente, sì, però, sì, la infatti cosa. Infatti, sono no? stupido. Giovanna beh, da Modena. Su questa cosa qui, sì, perché te l'hanno dimostrato sì, tutti. Vai, Giovanna, ma che ha dimostrato tutti? Ma tutti te l'hanno dimostrato. Sì. Giovanna da Modena. Pronto? Dimmi. Mi senti? Si può dire qualunque cosa. Ti sento. Ecco. Allora, io intanto premetto che sono un'ascoltatrice di Radio 24 di tutte le trasmissioni, non solo della tua. Va bene, dai, va bene, non ce ne frega niente, Giovanna, vai al sodo, dai. Allora, vado al sodo. Allora, devi dire a Parenzo, intanto anche a quella deputata lì del PD, sì, vorrei sapere come lei si permette di dire che una famiglia con 80 euro fa la spesa per 2 settimane. Non una famiglia, una persona. Ma chi l'ha detto? Non l'ha detto. Ma 80 euro sono una persona. Questa è la sostanza del commento che lei ma faceva. Ma non è vero, non è così. Ma è così, non ma è basta così, riascoltarlo. Infatti ha parlato di 2 cene. Professore. A persona. Professore. Chi è? Come andiamo, la zanzara, come va? Bene, lei? Tutto bene? Tutto bene. Che è successo? Niente, è Parenzo che mi fa incazzare, guardi. Ma perché se uno dice una stupidaggine, deve ammettere allora, è convinto che si possa fare 80 euro a persona! Non è così. Ha detto! A parte che non nemmeno a persona ci si riesce a fare la spesa 80 euro 2 settimane. Prima. Allora, il provvedimento di Renzi, discutibile, più che mai discutibile, sono pochi, allora, siamo sì, tutti d'accordo. Lei riesce 80 a fare la spesa? Ma che ne sa Taormina che non fa mai la spesa? Dai, 80 la spesa, euro 2 settimane, si riesce a fare la spesa, come dice la Picerno del Partito Democratico? Ma guardi, io con 80 euro ci do la mancia a posteggiatore, insomma, ecco, quindi ma certo, ha ragione lui, ha ragione Taormina, 80 euro della mancia a posteggiatore, nel 80 euro della mancia, do la mancia al ristorante vostro, quando pago nel mondo, quando paghi appunto, appunto nel mondo vostro. Tu da, professore, lei da... mettete un po' da parte di soldi, perché io qua sono stato citato davanti al tribunale di Bergamo da chi? Da un'organizzazione di avvocati Froci. Di avvocati che difendono gli omosessuali. Froci pure loro, mi sa. E quindi vogliono che io metta nel mio studio un centro di formazione antidiscriminazione bello, sessuale. Giusto. E che poi sì, collochi nella mia carta intestata sì, la dichiarazione ufficiale che io non sono contrario all'omosessualità. Addirittura, ma invece lei è contrario all'omosessualità, è contro, lo deve riaffermare in tutte le salse. Io sono, come sempre ho detto, se ognuno si fa i fatti suoi, sì, non ho niente da recriminare. Ma chi sono questi? Chi sono questi qua? Scusa. Ma una organizzazione di avvocati LGBT, LGBT, che vuol dire? Lesbiche, cose, insomma, trans. Un po' di tutto. Un po' misto, un misto mare. Con riferimento ad un'intervista fatta con voi ad ottobre, per cui sì, non so se anche voi sarete chiamati in causa. Ma sicuramente. Appunto, vabbè. Professore, scusi un attimo, le voglio chiedere una cosa, ma quei professori che hanno fatto leggere il libro sul sesso gay a Roma, no, a Giulio Cesare, che dice lei, questi qua che bisogna fare a questi due professori? Guardi, credo che sia una una cosa della gravità inaudita, insomma. Se devono essere cacciati questi qua. Era già successo a Venezia che avessero dato dei dossier ai bambini per dimostrare, appunto. No, ma questi che... proprio hanno fatto legge, hanno inserito nel programma di studi la lettura di un libro di Melania Mazzucco sull'omosessualità. Queste sono le forme veramente di coartazione. Ma questi qua menti, che cosa bisogna fare con questi professori? Quartazione delle menti. Questi professori non possono fare i professori. Vanno cacciati. Certamente, cacciati sono fatti. Loro, a me non mi interessa. Dico soltanto rieducati. Che veramente stiamo arrivando allo schifo. Al degrado più assoluto. Un attimo solo, professore, che ci sono tante altre cose che le voglio chiedere. Il professor Carlo Taormino, compresa questa cosa di Cogne e della Franzoni che hanno scritto che è socialmente pericolosa. Ormai è tutto degradato. Rosa. Ma guardi, io con 80 euro ci do la mancia a posteggiatore, insomma, ecco. Allora, l'avvocato Carlo Taormino, il professor Carlo Taormino in collegamento con noi. Ovviamente, caro Parenzo, considera questi 80. La frase si fa la spesa per due settimane con 80 euro è offensiva. È francamente offensiva. Io con 80 euro, adesso magari non come il professore, però con 80 euro forse ci faccio un paio di spese. Ma proprio quando grasso un paio di spese. Ma certo, ma scusa, ci sono persone che vuoi mangiare? Che ha chiamato prima, ma che con 200 euro mangiano in 5. Siccome il provvedimento riguarda. Ma non è vero, ti raccontano delle boiate. Nessuno mangia. Con 80 euro mangiano in 5. Ma chi l'ha detto? No, ma questo è, con 200 euro a settimana. Non si può prendere in giro tutto. Allora ha detto 200 euro a settimana. Certo, se mangi pasta al burro ogni giorno, certo. Ma non è così. Ma con 80 euro che volete fare? Tra l'altro dovete toglierci oltre le detrazioni che sono state eliminate, nonché le tasse che devono essere pagate spendendo gli 80 euro. È chiaro che non risolve i problemi di nessuno. Ma non è il problema di... Il problema è un altro. Per qualcuno è un aiuto in più. Torna la logica. Che ne diciate voi? La logica dell'assistenzialismo statale. Ma questa è la cosa. Insomma, lei li dà al posteggiatore, c'è chi invece va due volte a mangiarsi una pizza al ristorante. Ma io faccio un ragionamento più generale. Ma è mai possibile? Cioè, lei li dà al posteggiatore come mangia? Alcuni ci mangiano due volte in trattoria. Nel 2014, se io ho bisogno, mi deve dare l'elemosina allo Stato. Ma mi faccia capire. Ma c'è gente che ha bisogno. Ma voi parlate da stipendi altissimi, ma c'è gente che ha bisogno. No, non parliamo di stipendi altissimi, parliamo di una logica, secondo me, liberale, perché io liberale sono. Io non ho capito per quale ragione, se una famiglia sta in difficoltà, invece di metterla in condizione di lavorare, di ti essere, devono dare il bonus di 80 euro. È veramente una vergogna. Oltre a essere una forma di sgravio fiscale, è un aiuto che lo Stato non gli dà. Non è uno sgravio fiscale, è una mancia, dai. Tra le altre cose, pagata dopo le elezioni europee, quindi proprio insomma alla Lauro. Scusi, veramente, professore, ma io non ho capito bene questi qua delle scuole, questi insegnanti che volevano far passare. Lei lo conosce questo romanzo, questo racconto? No, io queste cose non le leggo proprio perché mi fanno veramente ribrezzo, quindi non sono assolutamente interessato. Perché non legge le storie degli amori gay? Sono delle belle storie, però. Ho veramente una così una crisi di rigetto, una mi viene il vomito quando vedo queste cose qui. Cos'è letteratura? No, le leggo queste cose, non leggo proprio, mi fanno ribrezzo, come mi fa ribrezzo vedere due persone dello stesso sesso che fanno porcherie o cose di questo genere. Scusate, ma la reazione che c'è stata a questa storia della scuola di Giulio Cesare in tutta Italia non sta a dimostrare che forse l'opinione pubblica è orientata all'eterosessualità? L'opinione pubblica è eterosessuale, dice lei. Ma l'opinione pubblica è eterosessuale, non c'è ombra di dubbio, altrimenti non saremmo qui a e considera i gay una perversione. Se c'è bisogno di gay pride, se c'è bisogno di queste manifestazioni pseudoculturali per propagandare quelle che sono queste anomalie fisiche e mentali, vuol dire che non tutti siamo nelle stesse condizioni e che la maggioranza invece la pensa in maniera Scusi, ma se lei avesse un figlio gay, cosa farebbe, professore? Guardi, questa veramente sarebbe per me una tragedia, una di quelle tragedie insuperabili. Certamente la violenza non si può esercitare, però ci vuole la rassegnazione, forse se si trova, diciamo così, un'abitazione separata mi sta bene, ecco. Cioè, se lo caccerebbe da casa, dice lei? Ma cacciarlo da casa no, lo metterei in condizione di vivere in un'altra casa, non a casa mia. Vabbè, appunto, lo caccerebbe da casa, che vuol dire? Ha le sue abitudini, le sue necessità, le sue frequentazioni. A casa mia io non lo permetterei, quindi se lui lo manderebbe via da casa, lo manderebbe via da casa, ma diciamo. Non mandarlo via da casa no, ma insomma a casa mia certamente tutto potrebbe fare, meno che le cose quali dovesse essere portato. No, voglio dire, ma se voglio dire, l'ipotesi per esempio di se lei potesse fare una per guardi sapere che se... questo, Cruciani, guardi che questo è un paese sì. nel quale non possiamo più manifestare liberamente il nostro pensiero. Quando io penso che per avere detto nella vostra trasmissione che non avrei desiderato e che non avrei avuto assunto un gay nel suo studio, appunto, vengo citato perché adotterei criteri razzisti, discriminatori. Ma se uno non vuole assumere un gay, non assumo un gay. Ma non ho capito, ma che ragionamento è? Ma uno deve dire io non assumo una persona che non è un bravo avvocato, ma no, non perché dico, è bianco, nero, giallo. Ma se lui non vuole. Dico, è discriminatorio. Guarda, però. Allora io dico una cosa. No. Discriminatorio è adottare un criterio in base al quale, avendo bisogno di assumere delle persone, io dico gay sì, gay no e eterosessuali sì. Questo è un ragionamento, ma che io non possa esprimere la mia opinione in generale, a prescindere da situazioni concrete, anche ma quello diciamo, sono d'accordo con lei, che la denuncia al tribunale è ridicolo, la denuncia al tribunale è ridicolo. Ma vabbè, ma no, non è problema di ridicolo, per dire questa è gente. Però professore, scusi, se lei ne fa un mestiere, preferirebbe, a parte che non si deve chiedere l'identità sessuale. A me mica m'hanno chiesto soltanto di mettere la carta intestata che non sono contro gli omosessuali. Però scusi, sarebbe m'hanno chiesto anche i soldi. Ma scusi, sarebbe gravissimo se no, ma scusi, però facciamo un esempio diverso, facciamolo su di me. No, voglio chiedere un'altra cosa, facciamo un esempio su di me. Professore, sarebbe gravissimo. Posso scrivere alla carta intestata che non voglio il militesente? Lo posso scrivere o no? Posso scrivere che non voglio uomini e voglio soltanto donne o viceversa? Lo posso scrivere o no? E lei che cosa vuol scrivere sulla carta? Non voglio gay? No, io non scrivo niente. Nel momento in cui mi dovessi trovare nella condizione di dover affrontare il problema, io certamente ragionerei in Ma perché lei chiede l'identità sessuale certo a chi modo. Viene però, ma perché lei chiede l'identità sessuale? Vedete, io sono preoccupato di parlare, avete capito a che punto no, siamo? No, lo so che lei è preoccupato, però diciamo la verità di parlare, diciamo... perché questa gente vuole esercitare una prevaricazione sulla manifestazione del pensiero, anzi sul pensiero, non sulla manifestazione del pensiero. Questa è la verità dei fatti. Siamo arrivati a questo punto. Però professore, scusi, per minoranze lei... sicuramente sparute rispetto ai 60 milioni di italiani. Però scusi, professore, se lei potesse non fare nascere un figlio gay, non lo farebbe nascere? Diciamo no, la vita assolutamente. Però lei preferirebbe che non le nascesse un figlio gay, però no, preferirebbe che non le nascesse. Io preferirei che non fosse gay, scusate, poi seppure questo non si può dire, è un altro discorso. Non sopprimerei la vita di un Ma come si fa a scoprirlo prima? Come si fa a scoprirlo prima? Ma che ne so, io penso di sì che si scopra, insomma. Cioè? Cioè che in qualche modo prima si potrebbe scoprire? Ma io penso che siccome sono delle anomalie, diciamo così, genetiche. Anche fisiche, genetiche. Quindi. Fisiche. E dunque lei fisiche. Ma guardi lei chi è Parenzo che parla e lei ma come fai Carlo a dire anomalie fisiche, scusami, ma scusami, e quell'altro che non ti dice niente, è una cosa nazista, ma è Cruciani che non ti dice niente, ma come anomalie fisiche, guarda ma guarda, le migliaia di persone che ci ascoltano che magari sono omosessuali, ma come si devono sentire se tu gli dici che hanno anche anomalie fisiche? Si debbono sentire che io ritengo offese. Che sono anormali, che ritengo che sono anormali. Ma che vuol dire anomalie fisiche? Ma io vado ai matti, scusami se mi arrabbio. Vai ai matti, si vede che a te stanno bene. Io che ti ma non è che sta bene, uno non può dire anomalie fisiche agli omosessuali. Ma Cruciani, ma di qualcosa anche tu pare, però. Ma scusa. Ho detto che è una cosa nazista, un po' le anomalie fisiche. Ma anomalie fisiche. E allora? E allora? E come allora? E allora? Ma non c'è allora! E dunque, allora? Ma scusa, ma perché mi devi imporre la tua opinione? Scusami, fammi capire. Ma non è un'opinione, è una roba oggettiva. Come fai a dire che gli omosessuali hanno anomalie fisiche? Cioè, è una roba aberrante. Certo, comportamentali sicuramente. E insiste ancora, certo. Dal punto di vista mio. Ma Cruciani, vuoi dirgli qualcosa anche tu, che sempre solo io? Ho detto. Non hai detto nulla, nulla gli hai detto. Ma io, dal punto di vista mio, certamente ci sono anomalie comportamentali e fisiche. Molti ritengono che si tratti, e io sono d'accordo con questi molti, che si tratti anche di anomalie fisiche, genetiche. Cui, siamo alla follia totale, ma neanche la menzogna della razza diceva roba simile. Non è mica una colpa questa, per carità. Esiste. In un modo c'è niente da fare, quello è, basta. Però, ma come c'è niente di male? Ma non hanno malattie, cosa vuol dire fisiche? Scusa, oh, ma vabbè, ma scusi, Tormina, ma perché uno se vuole. Scusi, professore, però, se uno vuole qualcosa, se uno vuole, se a uno piace metterlo nel culo a un'altra persona, perché non lo può fare? Beh, perché mi fa schifo, scusi. No, a lei le fa schifo. Non mi può fare schifo. Sì, non a me, ho capito. Se c'è gente a cui piace, che bisogna fare? No, gente a cui piace è malata, è gente malata. Ma va proibita questa gente, cosa, va proibita. È gente malata. Va proibita questa cosa. No, la proibizione no, perché ognuno deve fare, può fare quello che meglio crede. Passiamo basta un altro argomento. Non dia fastidio agli altri, basta che e chi, fastidio agli altri. Quando è che danno fastidio? Mica le danno fastidio a lei. Quando lo fanno, quando esprimono questo tipo di comportamenti anomali pubblicamente. Anomali pubblicamente, vabbè, professore, che posso fare? Ma se uno pensa così, se sono normali, io le auguro buona serata. Che le devo dire? Senta, professore, lei continua a dire che la Juve ha rubato, ruba le partite. Professore. Beh, non l'ha vista ieri sera la partita. Ah, professor Tormina, professore. Io l'ho vista la partita, ma l'ha visto il rigore non dato a Sassuolo che andava 2-1. Non l'ha visto, non l'ha visto Tevez che ha segnato. Il gol era regolare, ma la partenza era irregolare, cioè, ha portato avanti di 7-8 metri la palla rispetto al punto in cui si era verificato il fallo da punizione. Poi riprenderemo in un altro momento questo discorso. Io voglio dire un'altra cosa. Oggi ci sono stati 5 minuti di applausi. Ma guarda, non può passare la roba dell'anomalia. Ma chi è passata? 5 minuti di applausi. 5 minuti di applausi. 5, professore. 5 minuti di applausi da parte del sindacato di polizia e gli agenti che sono stati condannati per la morte di Aldrovandi. Lei che dice? 5 minuti di applausi. Ma guardi, io su queste cose sono molto rigoroso e molto critico. Io penso che in queste situazioni bisogna essere obiettivi, approfondire bene come stanno le cose. Perché ma hanno fatto bene ad applaudire gli agenti o no? Certamente, ma guardi, io sono normalmente dalla parte degli agenti perché so perfettamente come vivono, che cosa fanno, quali sacrifici affrontano e via dicendo. Però diciamo la verità, ci sono anche situazioni nell'ambito della polizia e comunque delle forze dell'ordine che assolutamente non vanno, basta vedere i processi penali che si fanno contro carabinieri e poliziotti per rendersi conto che picchiano troppo nelle manifestazioni, oddio, l'episodio di Roma della ragazza, quello è un caso, poi perché ci saranno stati 99 su 100 poliziotti che si sono comportati non bene ma benissimo, che magari e quella che ha messo, quella che ha calpestato. Però bisogna distinguere, appunto. Un attimo solo. Pronto? Pronto? Salve, sono Cruciani da Radio 24, buonasera. Buonasera. Buonasera. Senta, volevo capire questa cosa dei 5 minuti di applausi che ci sono stati oggi, così almeno mi riferiscono per i poliziotti coinvolti nel caso Aldrovandi, al vostro congresso, quello del SAP. No, io non ho seguito, chiedo scusa, ma non ho. No, lei è Tonelli, sì? No, ho sbagliato numero. Lei non è Gianni Tonelli? No. Vabbè, grazie, arrivederci. Salve, grazie. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito. Ma io sarò pagato in testa, ma capisco se pagato in testa che pagato in culo. Professore, la Franzoni è ancora pericolosa, socialmente pericolosa? No. Credo proprio di no. No, credo proprio di no. Io secondo me, come ben sapete, nonostante qualsiasi altro tipo di polemica, secondo me non soltanto non è pericolosa, ma non è nemmeno colpevole. Per cui vabbè, quello è un altro discorso. La penso in questo sicuramente modo. Non è ancora pericolosa. Ma come fa a essere pericolosa? A parte che i figli, uno c'ha 18 anni, l'altro c'ha 16, 10. E dunque chi potrebbe ammazzare, dice lei? No, ma succomberebbe lei questa volta, voglio dire, se fosse stata lei. Però insomma, francamente, una diagnosi di pericolosità mi pare veramente eccessiva dopo tutto questo tempo. Ecco, mi pare eccessivo, ovviamente. Va bene, professore, a presto, arrivederci. Grazie, presto, grazie. Arrivederci. Michele da Lodi. Sei diventato pazzo, Parenzo, per questa cosa ma del professore. Mi sembra di una gravità inaudita, veramente. Allora, vai. Davvero, ma... vai Michele, insomma, sì, ma... può darsi, adesso vedremo, dai. Può darsi, ma anche per il rispetto delle persone che ascoltano, ma che, chissà cosa hanno pensato. Cioè, dire, ti rendi conto se dicessero così di una persona? Quanti omosessuali conosci te? Vai. Paragoni Lavanna Marchi con Vannoni, cioè dai, ma ti pare? Ho detto un'altra cosa. Adesso va bene tutto, però insomma. Ho detto il rapporto. Ma su questo potrebbe anche avere ragione Parenzo. Ho detto le persone che hanno bisogno. Ma non è così, non può essere così. Stiamo parlando di due. È un paragone diversi. Voleva fare, poi l'ha ritirato. Come al solito, di venditori di fumo. No, di venditori di fumo. Di quelli che hanno problemi allora gravi e che si affiderebbero a chiunque. Questo ho detto. Ho capito, no. Parenzo, ma cioè, uno che ha una malattia si affida a chiunque. Michele, uno che ha avuto una giornata storta in ufficio e dà 10.000 euro a uno per chi sta molto male che non si scioglie, per me sei un coglione. Chi sta, va bene, ma tu devi metterti capito? Nei panni di chi sta molto male, ha la frutta e non ha altre chance. E tu, quando sei in quella condizione, gli faresti allora qualunque cosa, hai capito? Andare dal metro, dal signor Vannoni, dal dottor Vannoni. Non è che non è neanche medico. Io preferisco uno che rischia in quella maniera lì piuttosto che andare a dare i soldi per il sale che poi non si scioglie. Senti. Che poi allora c'hai il malocchio, che c'è questo, che c'è quello, ma però è un mio semplice pensiero, cioè che sia chiaro. Va bene, grazie Michele. Donato da Varese, dai, Donato da Varese. Pronto? Donato, dimmi. Pronto, una piccola premessa, non lo so, vorrei chiedere un favore. Intanto hanno squalificato a vita il patron dei Clippers, dei Los Angeles Clippers, squadra di basket, per le frasi razziste dette l'altro giorno. Cioè l'associazione di basket professionistica americana, che è lo sport, uno degli sport più popolari e più seguiti nel mondo, ha squalificato a vita il padrone, cioè il proprietario dei Los Angeles Clippers, per alcune frasi razziste. Capito? Bene. La differenza. Paese serio gli Stati Uniti. Donato, certo. Allora veloce, vai. Il razzismo non esiste. Voglio chiedere un favore a Parenzo. Dica, caro. Parenzo, ci sei? Sì, c'è. Sono qui. Mi voglio così mettere così un po' nella, voglio cadere un po' nella generosità, nella bontà di Parenzo. Magnanimità. Parenzo, mi fai una cortesia, tu sei così buono, così arrivato. Non sono buono manco per magnanimo. Non sono buono per niente. Ma banco per niente. Allora? No, perché davanti a 2 miliardi che l'Italia spende per far venire popoli e tenere diversi il nostro paese, vuol dire che tu sei bravo, se rimane così impassibile per te è giusto. Quindi se è giusto questo. Ma cosa è giusto? Se questo per te è giusto. Ma cosa è giusto? Non capisco cosa è giusto. È giusto il fatto che l'Italia spenda 2 miliardi l'anno per far entrare popoli di E hai già detto una stupidaggine, perché l'Italia non spende per farli entrare, spende per creare delle strutture per accoglierli e alle volte non rimandarli. Si fa, hai capito? Nessuno, già qua sei cazzo, stupido. Non si fa entrare già nessuno. Qua sei stupido proprio, stupido proprio. Proprio non stupido, quella S così, nessuno, stupido proprio, entrare. Già hai formulato la domanda in modo stupido proprio, stupido, stupido, capito? Proprio stupido, l'hai detta in modo stupido, piattola. Spendere dei soldi per farli arrivare, detta hai così paura. È una stupidaggine, ti trema il cutino, devi dire le cose in modo più intelligente e meno stupido proprio, hai paura che io ti chieda il favore pubblicamente davanti a che favore? Che favore? Troppo stupido, poverino. Lui mi dà un giorno alla settimana per venire lì a fianco a te. Io intanto faccio conoscere la musica all'Italia intera. La non musica, quale niente. Musica? Va bene, ti aspetto domani. Domani vieni qui, ti aspetto. Ma quella è a Varese. Fa un favore a me. Tu domani vieni, via, prendi il treno. Guarda, facciamo così. Richiamiamo domani questo donato. Ti aspetto a Roma, dai. Ti do la mia mail privata, guarda. Devo chiudere, poi Fabrizio da Modena, velocemente, 10 secondi. Fabrizio, vai. Sì. Vai. Allora, volevo dire, Cruciani, che per fortuna che c'è Parenzo, perché altrimenti non la reggerei questa trasmissione. Sì, allora? Cioè, non... Perché allora, cosa? Perché cosa? Devo chiudere, a domani, dai, Fabrizio, ti richiamo domani, ciao. Davide e Giuseppe, imparate una cosa, che qualsiasi lavoro che si fa, lo devi fare con amore, e se non ci metti amore, non fai niente. Ecco perché Radio 24, la zanzara, funziona. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Allora c'è qualcosa che non funziona. Radio 24. La passione si sente. senza la passione, ragazzi, mannaggia a voi.